And now, an ad from Dad. All right, save money on car insurance when you bundle home and auto with Progressive. Can I take these off? All right. What is this? This looks good. Wow. That's well made. Where did you get this? I'm talking to you with the hair. Yeah, where did you get this? It's good stuff. That's solid. That's not veneer. That's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations. Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, bentornati, leggermente in ritardo su quello che doveva essere la data di pubblicazione, come sapete il primo martedì del mese, perché siamo oramai parte integrante anche di Just in Tech, questo network tutto dedicato alla tecnologia e ai videogiochi, quindi insomma rispettando insomma le loro richieste avremmo dovuto essere già online da qualche giorno, ma purtroppo poi la scorsa settimana abbiamo avuto problemi e quindi eccoci qua a registrare questo nuovo fantastico episodio, che è un episodio che ha voluto insomma con tutte le forze Marco Gualdi, il distruggitore. Ciao Marco. Ciao, ma in realtà no, io ho buttato lì l'idea, perché non parliamo del multiplayer? Se tu hai buttato l'idea era tua. Ma ero ubriaco, non dicevo sul serio. Ah, ecco, ok, cioè, allora, però oramai siamo costretti a parlarne. Siamo costretti a farlo. E ovviamente io e Marco siamo qui, ma non siamo da soli, perché ancora una volta ringraziamo l'ospitalità di Giuseppe Saso. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Mai benvenuti a casa mia. Ecco così sembra davvero di essere in casa sua, in effetti. Quest'acqua è più buona proprio per il fatto che è offerta, capito? Quindi va bene. E dall'altra parte invece, sempre nel territorio romano, ci abbiamo insomma oramai quello che è diventato l'amichetto nostro, anche se ogni tanto che ci giochiamo, ci giochiamo con dice che amichetto. Ci invita da, che ne so, partecipare, anche poi non è vero, però insomma è Simone Andreozzi. Eccocelo. Esatto, bravo. Madonna, buona, perché avvolto, diciamo che Simone avrebbe dovuto, dal sudario della sofferenza. Esatto. Simone avrebbe dovuto essere qua con noi, però si è inventato un virus, quello di The Walking Dead, che sta diventando zombie, però allora noi giustamente per evitare mozzichi o cose strane abbiamo detto vabbè, stai dove stai, che stai bene dove stai. È bellissimo. La prossima volta faremo anche un pezzo di cucina. Esatto. Okay. Dietrologia culinaria. Bravo. Che poi culinaria, detto così. Ovviamente sarà spezzettata in tre parti, culinaria. Salutiamo invece quello che è l'unico che questa sera è al di fuori del territorio romano e ovviamente è il nostro Vate. Lo vuoi presentare tu? Presentalo tu, dai. Interposto. Viene colui che è osannato dalle genti, dalle folle, colui che ascende, colui che non si presenta ma viene evocato e si palesa, dalle lontane lande, quello di quel Rieti, posto che non so, ricordo, di Chieti? Chieti. No, Rieti. Chieti. Arriva lui, Doc Brown, Emmett, Luigi Marrone. Ciao a tutti ragazzi, è meraviglioso, io sono il vostro vater. Il vater, esatto. Io ti regalo sempre il mitico coprivate per... sempre pronto. Potete dirmi quello che volete, raccolgo tutto, okay. E scarico l'acqua. No, comunque fa piacere che anche Marco comincia a prendere dimestichezza con la conduzione, perché io Sapete che vorrei andare in pensione, eh? Però non mi ci fanno andare perché... perché devi fare almeno 30 anni di 30 podcast. Anni di podcast prima di andare in pensione. Va bene, allora www.dietrologiavideoludica.it. Abbiamo rinnovato anche un po' la grafica del sito. Dobbiamo ancora fare delle piccole rifiniture, però insomma il grosso l'abbiamo fatto. C'è stata un po' di rarefazione nella pubblicazione in generale, però questo è il nostro sito. Seguiteci, soprattutto leggete i nostri articoli, commentateli, che ci farà piacere. La prossima puntata probabilmente parleremo di tutte le cose che sono state pubblicate. Poi dietrologiavideoludica@gmail.com è chiaramente la nostra posta elettronica, che a che so io penso saranno 2 o 3 mesi che non consultiamo. Ma è vero, io ho anche l'account sul cellulare. Ah, ecco, lui c'ha l'account sul cellulare. Attenzione. Quindi allora niente, siete voi proprio che non scrivete, non ci cagate, ecco, diciamo, esatto. Dietrologia Vide è invece il nostro account su Twitter, seguiteci. E poi chiaramente Dietrologia Videoludica su Facebook, la scrivete tutto per intero, fate mi piace, perché insomma sta pagina fa un po' fatica rispetto a quella di Archeologia Videoludica, che invece se ne sta andando per altri lidi. Ok, detto questo, diamo il via al nucleo centrale della trasmissione. Ok, torniamo dopo questo fantastico jingle che per voi è durato mezzo secondo, per noi invece un'eternità. Sono già 3 minuti che stiamo ridendo a sbavo degli assenti, chiaramente, perché insomma è quella la cosa più bella. E ovviamente adesso c'è il tema della puntata da leggere. E... come sappiamo c'è sempre questa tradizione di dietrologia videoludica, cioè quella di farla leggere alla persona che più ne sa di tutti noi di lettura. Cioè uno un analfabeta di natura, cioè che noi cerchiamo di allevare e lui di far diventare più legge e meno sa leggere. Esatto, lui legge ma non capisce. Però il problema è che questa volta sembra che abbia mandato la giustificazione da casa. Dice che a un certo punto ogni tanto, anzi no, ogni tanto finalmente, questo ci fa anche piacere, quindi facciamo le nostre congratulazioni a Luigi, sì, a Luigi, a Stefano Biggio, che ha trovato finalmente lavoro. Esatto, come domatore di leoni. Esatto. Quindi che fa un'idea. Perché vuoi sapere come si fa a lavorare in Svizzera? Ok, vabbè. Come ci si sente, soprattutto a lavorare. Che cosa può fare un italiano in Svizzera? No, non lo so, cosa può fare? Può fare quello dentro una pizzeria. Può fare quello che lavora in ritardo, per dire. Quindi vabbè, insomma, Biggio non ci sta, forse dopo ci raggiunge, perché dice che lui stacca alle 22:30, poi ci vogliono 40 minuti per tornare a casa. Potremmo anche... Attenzione che essendo in Svizzera potrebbe aver preso le sane abitudini svizzere di dire le cose e farle davvero. Puntuale, non ci credo poco da quello che vedo, da quello che fa col sito. Lavora in una pizzeria slava probabilmente, dove spaccano bottiglie e ammazzano famiglie. Ok, quindi dobbiamo leggere sto benedetto tema della puntata, che è un tema interessante, ovviamente non lo può fare Stefano Biggio e quindi lo fa Marco Gualdi. Però cercherò di non farvi sentire la mancanza di Stefano Biggio. Quindi assumerò... E poi noi gli daremo il voto però. Esatto, okay. Ma io quindi devo leggere. Quindi preparati Peppe che... Naturalmente, anche se sarà pessimo, se lo beccherà sempre Biggio. Certo. Infatti, è come se fosse Biggio. Infatti, cercherò di imitarlo. Vai. Attenzione. Allora, vado a leggere il multiplayer. Ne vogliamo parlare? Non parla così. Che lui c'ha la voce più profonda. Cioè. Allora, aspetta, mi metto un dito. Questo un ruppugno. Il multiplayer. Ne vogliamo parlare? Il fantastico Eden dei bimbi minchia blasfemi che adorano gli headshot e fanno comunella tra loro? COD, Battlefield e company non hanno un po' rotto le balle? Il multiplayer rovina il single player? Se sì, e se, in contenuti, durata o qualità? In realtà non era proprio così la frase, però se volete ve la rileggo bene. Se sì e se, in contenuti, durata o qualità generale, in qualche modo ne risentono? Non dovrebbero abbandonarlo del tutto e dedicarsi all'online e basta? In questi ambiti di mero gioco online, i free to play, i pay to play, i pay to win e via dicendo, sono un modo elegante di succhiare il midollo agli utenti? Gli scambi di oggetti tra giocatori che avvengono con valuta reale e col patrocinio e controllo dei publisher ne sono un appendice? Se è tutto chiaro, se no lo rileggo, eh? Cioè, no, va bene, faccio anche un riassunto. Ma è finito? C'è un punto? Potete schiamare un po'. Ma è finito? Sì, è finito. Sì. È finito. Ok, allora, innanzitutto tra te che leggevi e quell'altro là che moriva, quasi ho sentito la nostalgia di Stefano Biggio. È per questo che lui legge. Noi siamo lì a criticarlo, mica. Vabbè, io te do 4 comunque. Vabbè, fai bene. Hai anche ripetuto, lui non l'ha mai fatta sta cosa. Giuseppe. Io invece ti do 5 perché ho avuto a un certo punto l'incertezza e ho dovuto ripetere anche la frase. Quindi, certo. Quindi è sempre un voto negativo, diciamocelo, insomma. Cioè, Luigi. Ma mi piaceva sicuramente più Stefano. Bravo, sì. Bravo. Ti stanno a massacrare tutti. Ma io lo faccio apposta. Tu hai un'empatia proprio verso il mondo che proprio. Ma io lo faccio apposta. Ma io voglio che sia Biggio. Io gli metto un 9 quindi. Oh, la miseria, no. Come un 9? Sì, perché l'ha fatta apposta e quindi non voglio dargli soddisfazione di dargli un voto basso. Hai ragione, hai ragione. Sei un maledetto. Tu sei più tignoso di lui. Sei un maledetto, ti odio. E invece Simone? Io 8. Così, a sbaglio. Così? Sì, mi serviva una cosa pesante, così il microfono si vedeva, vedevo l'ondina. Ah, hai detto qualsiasi cosa, normalmente per vedere che sei registrato. Ok, 8, ok. Ma no, io lo dico perché poi gli ho rovinato il pezzo, perché io provavo, facevo, lui muovevo e quindi... Vabbè, vabbè, esatto. Vabbè, io penso, sono quasi d'accordo con quello che ha detto Luigi invece, che ha detto che... In realtà tu avresti... Perché poi la cosa bella è che una volta un ascoltatore mi ha detto: io ascolto Archeologia Videoludica, veramente un bel programma, ci sta Alex insomma che presenta abbastanza bene, Peppe veramente fa delle spiegazioni, è proprio quel cazzo di distruggitore, io non lo capisco, che ci sta a fare? E io ho detto: fa parte del team, non possiamo mica cacciare via. Certo. Vabbè, dai, iniziamo a parlare. Si parla di multiplayer. Oh, questo è... È un tema interessante, perché in realtà il multiplayer non è soltanto il fatto di farsi una partitina online, c'è tutta una serie di risvolti, giusto Marco? Sociopolitici. Sociopolitici, ma anche sociologici. Certo, perché... E psicologici. Per chi lo fa, per chi lo subisce anche il multiplayer, perché ovviamente il multiplayer... Noi l'abbiamo subito, diciamo. L'abbiamo subito. Perché ci è venuta in mente di fare questa puntata una volta che stavamo io e Marco a casa mia a giocare alla PlayStation. Ho detto, sai, c'è la PlayStation collegata, facciamo una partita a FIFA online. Gli ho detto, vai, inserisciti, vai. Gli ho dato il joypad e lui si è collegato online e ha fatto la prima partita che è capitato, tipo, che ne so, Lazio lui e Napoli quell'altro. Ma io c'ho una squadra di merda. No, c'è la Lazio. La Lazio, cioè. Una squadra di merda, merda, chiaramente. Vaffanculo. Io sono stato zitto. Tu infatti devi stare. Con tutto che non ho idea di cosa sia il calcio, okay, momenti, quindi. Insomma, vabbè. Lui stava col joypad e giocava, e io invece stavo con le cuffie per sentire quello che diceva quell'altro, no? E detto, mo se mi dice qualche cosa, magari io che ne so, gli rispondo, magari ci diventiamo amici, o roba del genere. E questo ci ha riempito di pallonate, nel senso che ha vinto tipo 5-6-0. Ogni gol ci bestemmiava contro in una maniera indegna. No, bestemmiamo contro di te. Contro di te, in realtà. Però insomma, uno bestemmia contro sé. Pizzi, mannaggia Pizzi! Pizzi del mezzo! Insomma, vabbè, io sono rimasto un po' basito e poi mi hanno detto che in realtà questa è un po'... Era una cosa notare. La prassi, no? Saso, te che succede? Tu che sei un po' più multiplayer, Saso. Non mai ero solo distratto a guardare Facebook. Comunque, male. Facebook fa male alla salute. È arrivato Biggio, ragazzi. Biggio, ragazzi, allora facciamolo salire. Attenzione che chiamiamo Biggio. Facciamo salire, che hai aperto lo sportello. Facciamo salire, tutto sentito. Eccolo, è arrivato. Bravo, ben arrivato. Il fatto che è arrivato un po' in anticipo mi fa supporre che l'hanno pure licenziato. È probabile. Ma... No, allora io no, vi dico. La tua pizzeria albanese lì hanno cacciato. ti hanno cacciato. Mi ha detto che era troppo chiaro di carnagione per lavorare con loro. Ma succede al contrario. Sì, esatto. No, io vi dico solo che ho dovuto spiegare cos'era un podcast per essere qui un po' prima. E ti hanno licenziato per quello. E mi hanno licenziato dopo aver scoperto di che cosa. Perché sei stato sincero, potevi dire tantissime cose. Sì, infatti. Sì, ho detto ho detto la verità, non vedo perché non farlo, non e c'è niente. La sincerità non paga. E quindi è quello il problema. Comunque dai, voi oramai ti hanno detto fai con comodo anche domani. Sì, fai non stancarti a venire lunedì. Sì. Cerca di fare podcast tutti i giorni. Altro, la sincerità complica le cose, semplifica. Esatto, in questo caso la complicata è perché mi hanno detto: "Ah, ma quindi tu fai la radio?" E io no. Sì, quasi. Gli ho detto, è tipo una radio registrata. Ricorda ciò che dice Winston Zeddemore: se qualcuno ti dice che sei un dio, tu gli devi dire di sì. Ricorda sempre questa cosa. È vero anche che stiamo registrando Dietrologia Videoludica e non sarebbe male iniziare a parlare del adesso. Tema della puntata. Senti, allora, senti come dire le briglie della trasmissione. Sentilo. No, perché io penso che dopo 25 minuti di cui non abbiamo parlato un cazzo, penso che chiunque ha già cancellato il file MP3. Esatto. L'avrei fatto anch'io, insomma, no? Quindi. Va bene, quindi Stefano, dato che sei arrivato, riprendi la conduzione della trasmissione e cominciamo a parlare di multiplayer. va bene, del sito multiplayer. Esatto. Allora, l'abbiamo messo in banca, direi. Esatto. E sino a qui tutto bene, ma volete che legga l'introduzione? No, quella già l'abbiamo letta, dai. Oppure vuoi fare il reale confronto? No, non lo so. Io vorrei fare una cosa, la leggo anche io e poi lasciamo decidere agli ascoltatori qual è la versione migliore. Ecco. Apri il sondaggio sul sito. Apriamo il sondaggione. Eh sì, esatto, allora, esatto. Voterò anch'io per te, comunque. Grande. Tu devi continuare a leggerlo. Io non devo perdere questo. Ma anche se vinci tu, io continuo a leggere senza problemi. No, è solo per mi dispiace, è solo per infastidire il prossimo. Comunque provo a leggere velocemente, quindi sarà ancora peggio del solito, e poi sì, direi di riprendere tutto la baradan con calma e tranquillità. Bene, inizio. Ci siete? Sì. Ok. Allora, il multiplayer, ne vogliamo parlare? Il fantastico Eden dei bimbi minchia blasfemi che adorano gli headshot e fanno comunella tra di loro? COD, Battlefield e company non hanno rotto un po' le balle? Il multiplayer rovina il single player? Se sì, e se in contenuti, durata o qualità generale in qualche modo ne risentono, non dovrebbero abbandonarlo del tutto e dedicarsi all'online e basta? In questi ambiti di mero gioco online, i free to play e i pay to play o i pay to win sono un modo elegante di succhiare il midollo agli utenti? Gli scambi di oggetti tra giocatori che avvengono con valuta reale e col patrocinio o controllo di publisher ne sono un appendice? Bravo! Bravo, assolutamente, ha dato una pista, veramente. Bravo. Grazie, bravo. Ragazzi, grazie. Bravo. Grazie, siete tanto cari. Veramente gli hai dato. Valeva la pena farsi licenziare per questa cosa. Complimenti. Esatto. Non mangerò per un mese, ma ne è valsa la pena. Comunque, prego, quindi avete già iniziato a discutere? No. Parlavo male di te, ti imitavano bassamente. Infatti, abbiamo imitato proprio nel modo più bieco. No, immagino che avete parlato di pecore, avete raddoppiato le doppie. Esatto. Abbiamo parlato di stampatello così. Per circa 20 minuti. Esatto. Non dubitavo, ormai siete prevedibili come, non lo so, siamo beceri d'altronde, sì, prevedibili come siete prevedibili come un nuovo capitolo di Call of Duty praticamente. ma anche di Assassin's Creed, diciamo, sì. Ma adesso vediamo. Comunque io direi, quindi il piccolo Saso, ovviamente, Giuseppe, sì, doveva illuminarci con una sua dissertazione e introduzione. Non riesco a introduzione, esatto. Ok, va bene. Allora, se noi consideriamo il single player è un portatore di socialità, no? Perché tu quando giochi anche da solo per i fatti tuoi, in realtà hai comunque quella voglia poi di condividere la tua esperienza con qualcuno, no? Anche solo raccontando quello che hai fatto. D'altro canto, in realtà il multiplayer è proprio il portatore di socialità all'ennesima potenza. Ricordiamo che comunque il multiplayer nasce, visto che dobbiamo comunque dare anche dei riferimenti cronologici, storici, nelle sale giochi. Perché ricordiamo che comunque in quei luoghi ormai in via di estinzione, dove c'erano i classici cabinati, insomma, creavano una reazione sociale abbastanza forte. Infatti ricordiamo che negli anni 80 ci fu anche una campagna proprio di demonizzazione delle sale giochi, perché erano dei luoghi di perdizione, se ricordiamo. Oltretutto anche i primi videogiochi avevano, diciamo, erano il gameplay era fondamentalmente previsto per due giocatori, perché magari non era stato implementato alcun tipo di intelligenza artificiale. Ricordiamo per esempio sempre per fare il confronto con l'altra sorella maggiore archeologia videoludica, Space War Raw, quando ne avete parlato, è un gioco fondamentalmente multiplayer. Space War Raw. Fate finta che vi ricordate. Certo. Proprio quello. Ecco, sì. Qual era? Sì, non mi veniva il nome. Sì, sì. In realtà comunque ricordiamo che nelle sale giochi comunque c'era, diciamo, una composizione sociale abbastanza tipica, perché era fatto ovviamente di gente ricca, gente povera, bianchi, neri, gialli e quindi in pratica l'appartenenza, diciamo, a un determinato tipo di classe era un elemento accessorio, diciamo, abbastanza importante, così come lo era rappresentato dal record, dall'high score presente. In realtà poi questo fenomeno, che era un multiplayer fondamentalmente locale, si è spostato col passare delle generazioni videoludiche nelle varie console casalinghe. Quindi vi ricordate i vari giochi che potevate fare, che so, con la Atari 2006, poi anche col NES, anche perché ricordiamo per esempio che il NES 8-bit veniva fornito in bundle con due controller, quindi era già comunque previsto che... Così come uno ci giocavi, no? Esatto. E poi in realtà purtroppo poi a partire dal 2000, con ormai il boom di internet, si è spostato ovviamente online. Questo, diciamo, era un piccolo excursus. In realtà comunque volete che continuo a parlare, insomma, ma continuo a parlare, sì, okay, ma chi sa, siamo affascinati. No, almeno una volta che c'è una cosa che mi interessa, sì. Ma io non ero persona che dice cose serie, ero serio, non ce la voglio parlare. Ok, va bene. Allora, in realtà il gioco online, appunto, è ormai la prassi per il multiplayer. Il multiplayer ha cercato prima, diciamo, ha preso piede più facilmente in alcune tipologie di giochi, soprattutto in particolare appunto nell'online, che ormai, diciamo, giochi fondamentalmente FPS oppure sportivi o anche giochi di ruolo online, MMORPG, sono fondamentalmente il pane quotidiano del multiplayer, del giocatore multiplayer online. Però in realtà non so se convenite con me, ormai di fatto si è espanso e ha purtroppo appestato praticamente qualunque genere, anche volendo generi che non trovano la sua non lo prevedo, esatto, insomma. Non più che non lo prevedo, non c'è secca. Esatto. Dovrebbe anche farne meno tranquillamente. Sì, esatto, ne possono fare meno tranquillamente. Vogliamo per esempio vedere gli ultimi titoli usciti che ce l'hanno dovuto inserire per forza, come può essere un Tomb Raider oppure Assassin's Creed. Anche se questo, diciamo, ne parliamo dopo, anche di quando è finito Mass Effect. Ne volevo parlare del gettone. 32 minuti arresto. Dobbiamo specificare che oltre ad avere un gettone nella trasmissione, sì, chi lo dice per prima è un gettone extra. Perché volevo sì portare poi la discussione di quando effettivamente il multiplayer ha senso anche in un contesto narrativo dell'ambientazione come Mass Effect 3. Troppo E quando, e quando invece per esempio non ha proprio senso, come può essere che so, appunto, un Dead Space, in particolare il secondo, ricordiamo, un Bioshock 2 per esempio. E quando invece anche ci sono casi in cui invece il multiplayer è fondamentalmente la via migliore per godersi un certo tipo di esperienza, come può essere, non voglio andare nei banali MMORPG, ma per esempio può essere, paradossalmente, se considerate Portal 2 per esempio, i puzzle rispetto al single player sono molto più divertenti, scusate, anche più complessi. Non so se continuate con me, esempio, se avete giocato Portal, sì, 2 multiplayer. Portal, cioè, 2, c'è una differenza abissale tra la campagna singola e quella con un altro giocatore. Sì, sono quasi altri giochi. O anche quando appunto è più divertente, per esempio, per certe tipologie di giochi, per alcune dinamiche, ad esempio Left 4 Dead è un gioco che fondamentalmente poggia sempre solo sia il primo che il secondo sul multiplayer, perché comunque non si è tuttora arrivato a implementare comunque un IA dei compagni tale da poter coprire tutte le possibili situazioni che invece un normale giocatore è in grado di fare, insomma, di comportarsi in maniera intelligente, tra virgolette. In realtà, comunque, non so, qualcun altro vuole intervenire nel frattempo, così magari mi riposo un attimo. Ma guarda, io direi, ricordo. Scusa, no, intanto, no, diciamo, ci mancherebbe. Più che altro come visione del... Io come visione mi ricordo almeno, esatto, a Roma, e Simone e Marco forse me lo possono confermare, all'inizio, all'albore della sala giochi, la sala giochi a Roma era praticamente la bisca con uno o due cabinati di qualcosa, oppure c'era, mi ricordo però, al bowling, c'era al Brunswick, quello sull'acqua acidosa, se vi ricordate ci stavano i cabinati e ci si giocava mentre si aspettava di fare la partita al bowling. E anche per... Pronto, ma mi sentite? Sì. Anche nel caso della, invece, diciamo, della bisca di quartiere, del baretto che c'aveva quei tre titoli, quando ci volevi andare a giocare, e io, essendo traviato dai videogiochi da quando ero più piccolo, appena potevo, davanti scuola così, e volevo andarci, i miei mi cercavano, mi beravano se mi ci trovavano, insomma. All'inizio, no, vabbè, comunque erano piuttosto rigidi sul non mandarmici, specialmente al baretto sotto casa, dove magari non eri proprio in centro di Roma, uno stava in una zona un po', non era proprio l'Interland proprio, però insomma non era proprio centro, e quindi rischiavi che... Quindi da lì il multiplayer era il più grande che cercava di fregarti il gettone. Sì, che questo capitava, scusate ti interrompo, con classica scusa, guarda questo pezzo c'ha i problemi, se vuoi te lo supero io. Esatto, che tra parentesi, paradossalmente, non so se notate, questo elemento sta tornando ora in voga col discorso del, per esempio, di con la PS4 di quella funzionalità share, che si può superare, appunto, sì, anche, diciamo, un giocatore possa entrare nelle tue partite per farti superare un determinato punto o per farti perdere completamente. Esatto. Quindi su quello perché sicuramente è capitato anche c'è questo, comunque, perché è capitato, no, che ci penso, no. Pure quello più grande, che magari non gli potevi manco di de no, perché cioè, te guardava brutto punto, penso io sto pezzo, e moriva, e lì non è che gli potevi dire, però che stronzo, sei morto, no, quello te lo vedeva pure tu sei morto. E lì finiva la discussione. No, ma te mori pure te. No, ecco, quello che manca esattamente così. Quello che manca a me della PlayStation 4 è quello che ti fuma vicino. Che tu magari hai 8 anni, esatto. E no, c'è, aspetta, quello se che ci fuma abbastanza, fuma direttamente la PlayStation. Sì, la chiudo in una coperta e poi aspetto e inizio ad odorare. Ah, adesso sì che mi sento come comunque, in sala giochi. Intervengo un attimo io dicendo: vabbè, a parte che il termine multiplayer di per sé, per come l'abbiamo posto, in effetti è un po' fuorviante, no? Perché multiplayer significa multigiocatore, quindi più giocatore, come diceva Giuseppe, in realtà quando c'avevi l'Atari 2006 con due joystick già quello era multiplayer, no? Nel senso di giocare in più persone. Poi in realtà questo concetto del multiplayer piano piano è evoluto, perché per esempio nel Commodore 64, se non erro, o nel VIC-20, insomma nei computer dopo, non è che c'avevi le doppie porte per i joystick, ne avevi una sola. Cioè nel senso, poi il gioco per certi versi si è radicalizzato, diciamo, da una parte nel gioco singolo, ossia è diventata un'esperienza personale, dall'altra invece c'è stato... Avevano tutti la doppia porta. No, poi intanto poi domenica ne parliamo di questa cosa. Poi ti levavo... Se t'ho detto così e basta, non mangiare. Cambia la storia. Comunque, esatto, bravo. Basta cambiare la storia, poi non è che ci vuole tanto. Insomma. Vabbè, questi tempi, insomma, è facile. Voglio dire, alla fine ci stavano gli egiziani quando il faraone non gli piaceva quello che aveva fatto. Chiamava il dinosauro, cancellavano tutto, buttavano giù monumenti. Vabbè, comunque, in ogni caso, i primi approcci, no, di multiplayer, quello reale, sono stati, ecco, come diceva, magari alcuni cabinati che erano collegati in parallelo, quindi che ne so, Daytona o certe cose così, oppure i giochi in LAN, che praticamente alcuni negozi dei videogiochi mettevano, c'erano magari la stanzetta in più dove praticamente c'erano sti computer collegati in LAN e tu andavi là e pagavi, perché ovviamente chi ce l'aveva 5 computer per andare a giocare a Doom collegati in rete. Erano nati anche in quel periodo, se ti ricordi, Simone, scusa, i cosiddetti LAN party, vi ricordo, cioè, sì, poi mai avete detto ci vediamo a casa di Tizio Caio, ognuno porta il suo cavo Ethernet e li colleghiamo tutti in rete, sì. locale. Però cioè, fa un po' strano, perché in realtà poi questa evoluzione del multiplayer poi è diventato gioco online, no? Sì. In realtà poi alla fine, se prima in qualche maniera era più simile al concetto di gioco normale, quindi socializzazione, ma soprattutto con la presenza della persona fisica accanto. Esatto, adesso invece è un po' più, non dico asocializzante, perché in realtà l'aspetto social c'è sempre, come abbiamo detto, però è proprio diverso l'approccio, nel senso, non c'è più perché noi quando giocavamo a Doom in LAN, ma poi a parte conosco ancora persone che lo fanno, cioè nel senso giocano ancora in LAN, cioè nel senso, e magari ti incazzavi perché quello andavi là e gli davi due pizze per scherzare, cioè nel senso c'era un contatto fisico, cioè, ma anche il fatto che se c'era, diciamo, uno spazio, un problemi logistici, quindi uno spazio abbastanza ridotto, quello magari sbirciava nel tuo monitor e sapeva la stessa cosa ovviamente avveniva al bar, nella sala giochi, quando nei giochi di picchiaduro, dove tu comunque, se butti anche un occhio sui comandi del giocatore, puoi anche prevedere più o meno che super mossa, per esempio quando sta effettuando, che sono Street Fighter, la Duken, lo Shoryuken, tutte queste mosse, perché lo vedi subito. Pensa, mi hai fatto venire in mente una cosa, adesso me la racconto, poi passiamo la parola pure a Luigi, che magari ci fa un attimo anche lui. Ci vorrebbe il sottofondo con la musica malinconica. Ci vorrebbe, perché no, in realtà no, perché è un po' blasfema la cosa, però la racconto lo stesso, perché mi ricordo che stavo a Gubbio, alla sala giochi, con un amico mio, un carissimo mio amico, e insomma abbiamo passato un grande percorso di vita insieme, e stavamo a giocare al gioco quello di calcio di Sega, forse, che c'era hai capito quale, no? Virtua Striker. Bravo, che era bellissimo, tra l'altro. Mi ricordo, stavamo a fare queste partite che tra me e lui erano tiratissime, no? E lui aveva fatto sto gol all'inizio della partita, io non riuscivo a segnarlo. A un certo punto, proprio verso la fine della partita, oramai mancava proprio poco e niente, ma ho urlato, tipo che mi ha sentito, si è girata tutta la sala giochi, ho detto possa che crollano tutte le chiese del mondo che non faccio go e ho fatto go e allora lì ho capito che se tu lo minacci esiste e ha paura di te, esatto, se tu lo minacci lui ti aiuta in qualche modo, anche Dio teme il pizzi, no, direi che, ma poi paradossalmente è la chiosa perfetta, sì, cioè è giusto, la più tradizionalista è infatti rimasta Nintendo, che per esempio per certi giochi diciamo, vuole che ancora, o comunque predilige l'approccio di multiplayer locale da salotto, perché infatti per esempio uno dei giochi migliori da giocare secondo me assieme può essere, che so, un Mario Kart, Mario Party, un Mario Kart dove ti puoi prendere fisicamente a spintoni con l'avversario accanto al divano, sì. Oppure vabbè, con tutti i giochi della serie New Super Mario Bros, quello che è, dove fondamentalmente siamo tutti di fronte allo stesso schermo e giochiamo assieme. Oltretutto, appunto, l'online, perché anche ha attecchito, innanzitutto per il discorso ovviamente che hai la comodità, perché questa è comunque una comodità di in qualunque momento di trovare, anche con le varie funzioni di matchmaking e di infrastrutture, dei server, trovi sempre comunque qualcuno con cui giocare a qualunque ora, soprattutto per i titoli più gettonati, magari per quelli più scarsi, che poi vedremo, si pone il problema che magari tu acquisti un gioco e poi già dopo 2-3 settimane i server sono praticamente abbandonati a loro stessi, e c'è la ruota di paglia che cammina stile western deserto, che non c'è niente comunque. E poi, a parte questa, appunto, comodità di trovare comunque sempre qualche avversario online, ci sono anche, diciamo, tutta una serie di vantaggi, anche il fatto appunto che non ti devi muovere comunque, tu da casa devi fare venire qualcuno che quindi prenderebbe comunque del tempo, anche magari sta dall'altra parte della città, oppure fisicamente un tuo amico che sta appunto in un'altra città, oppure c'è un virus come Simone Cognome, sì. Andreozzi. Esatto. Bene, ma io direi di passare, detto ciò, al secondo punto. Ma scusa, non puoi sentire, no, magari... Senti un attimo Luigi, no? Che... Esatto. Luigi, prego. Sì, c'è anche Luigi, tu non l'hai sentito, ma c'è anche... Certo che c'è Luigi. Luigi c'è sempre. C'è sempre, anche Luigi. Ciao, quando Stefano, non c'è. Ciao, anche... Luigi. E lui in realtà è due o tre posti contemporaneamente. Visto, più che aggiungere qualcosa, il secondo punto, se lo leggi magari mi... introduco il secondo punto. Esatto, no, più o meno ciò che volevo fare, quindi discutere, insomma, elencare brevemente come abbiamo iniziato e quando abbiamo iniziato a giocare online e come si è evoluto la Baradan. Prego Luigi, quando vuoi. Dunque, mi stai chiedendo questo, una domanda soggettiva che fai? Sì, sì, chiedo in questo caso a te, quando hai iniziato a giocare, se hai proseguito, come hai proseguito. So che hai proseguito, quindi... Beh, è cominciato con giocando con mio fratello o mio padre, quando ero bambino, con una versione di Pong taroccata, non so per quale tipo di console, un vecchio cassone. E poi con il Commodore VIC-20 e un Commodore 64 ho avuto la possibilità, insomma, di giocare con queste piattaforme, di trarne quell'aspetto di socialità che non ho avuto con le sale giochi, perché non le frequentavo, sono veramente sincero. Sono sempre stato affascinato dalle potenzialità delle sale giochi, ma non ho mai sentito l'esigenza di mischiare. Sono stato sempre un giocatore da salotto. E, ho perso completamente. Poi vabbè, ho continuato soprattutto con il Commodore Amiga, partite di calcio fondamentalmente, ma anche di partecipazione, tipo giocavamo io e un mio amico a giochi tipo The Last Ninja, per intenderci, quindi uno gioca, l'altro guarda, però c'è anche questo aspetto di presenza fisica che fa molto multigiocatore. È più un multiplayer voyeurista, però sì, che poi sono riproposte con delle forme attuali di videogioco. Metti caso un Uncharted, un Heavy Rain, oggi si possono tranquillamente giocare qualcuno a fianco senza che l'altro sa noi. Ci sta come in realtà. Io e il Pizzi abbiamo dei ricordi particolari con Heavy Rain, con Michela che faceva morire la gente. Sì. Sono divertentissimo. Anche di fronte alla scelta più logica che ti viene suggerita dal normalissimo istinto di conservazione, lì si è buttato dalla finestra, quindi ci ha fatto morire quanti, sono quattro i personaggi che possono morire, cinque. Elena ha fatto morire cinque, quindi povera Madison. Che la Madison che si buttava, la salutiamo, Luigi, la salutiamo, che ci ascolta sempre, le diamo un caro saluto, esatto. Insegna gli angeli a buttarsi dalle finestre. Insegna gli angeli a dire a Michela di non buttare gli altri dalle finestre. Ma poi il bello è che si è rifiutata lì in poi, cioè non ha più voluto, cioè è stata talmente scioccata psicologicamente da Heavy Rain che non vuole più vedere la PlayStation. No, specifichiamo che Michela è la moglie di Simone Pizzi, ecco perché è un nome detto così, per chi non lo sa, è un nome X. Dopo Heavy Rain. Nonostante tutto. Ascolta Luigi, è online invece quando è iniziato? Il primo gioco online a cui hai giocato chiaramente in maniera un po' continuativa, ecco, non... insomma, allora, non troppo mordi e fuggi. Il primo gioco online sia stato... Io non ho mai giocato su PC, quindi considerate questo aspetto completamente assente. È stato Gears of War per Xbox 360. Scusa sì, Luigi, cioè tu non hai... Ah no, scusami, è stato Halo, il primo Halo per la prima Xbox. Ti parlo quindi 2000, poteva essere il 2004, la prima volta che ho giocato online. Sì, 2004-2005 più forse. Sì. Luigi. Sì. Dico, ma tu non hai mai giocato un gioco su PC? Ma avevo un PC nel 2000 nuovo che permetteva di girare cose tipo Soldier of Fortune, per intenderci. Cioè, insomma. Beh, che, sì, e quindi era un buon computerino, e quindi giocai a quello, mi innamorai, disse che bello e tutto. Poi però sai, era il 2000 2001, poi compri la PlayStation 2, quindi, che ne so, giochi tipo X-Wing, Wing Commander, no, cioè, no, zero, capolavori assoluti, bellissimi. Ci giocavano amici miei, mi invitavano a casa loro, però non ho mai sentito l'esigenza. No, peccato, perché cioè, in realtà io non sono mai stato un PCista particolare, però insomma è vero che c'è, manco normale, dici tutta, eh? Un PCista particolare, dico, manco normale sei stato, manco un PCista. No, io ci ho avuto soltanto, guarda, io ci ho avuto un 386, un 486 e forse uno dei primi Pentium 60. Il Creative, c'hai avuto pure il Creative là. Beh, multimedia pack e cazzi e mazzi, esatto, perché c'è stato un periodo in cui mi aveva preso una scimmia, ma devo dire c'è stata una bella gente. Pronto? Sì. No, niente, quindi i PC non li ho un po' snobbati, sinceramente, sono delle console, non ero così preso dalla cultura videoludica in genere in quel periodo. Mi immagino che se avessi adesso quella cultura che videoludica qui adesso, tornassi indietro per giocare col PC, sicuramente prenderei una buona macchina e non mi perderei vari aspetti del videogioco che ho completamente tralasciato, proprio lo dico apertamente. Bene, ok, Simone Cognome o quel che ne rimane? Allora, dei PC? Si parla, no, dei no, PC, sì. Volevo sapere se ti piacciono i PC. Il virus, il virus, ragazzi. Simone, la tua prima esperienza multiplayer sia locale che... Io dicevo, sì. Io stavo dicendo, infatti, prima che le prime sono state quelle, appunto, delle varie sale giochi e... anche perché i cabinati ai tempi erano proprio, alcuni erano proprio predisposti, come quello dei Tartarughe Ninja, per dire, no, ricordo Tartarughe quello. Ninja, no, Tartarughe, che palle, queste Tartarughe, che palle. E poi ricordiamo che c'erano due versioni del cabinato, una che con soli due, esatto, comandi, e quella poi con quattro che era favolosa, esatto, quella era con un quattro, era quello, c'era la sala giochi all'Eur, che dentro l'Uneur che c'era quella, e poi vabbè, tutti praticamente erano predisposti con due, cioè il classico due postazioni. E da lì poi sì, c'è stata quella con l'Home Entertainment, che con raffreddore non so cosa è uscito, L'Home Entertainment, l'intrattenimento da casa, che non è quello, non è quello dei 14 anni. Anche quello è intrattenimento, sì, da bagno, quello è bathroom, vabbè. Esatto. E quindi si cominciava con l'Amiga, con i classici joystick, quelli con un tasto solo. E poi da lì diciamo che la parte più divertente è stata pure per me, a parte il LAN party, ma Nintendo, perché Nintendo 64 è stato il primo che nasceva predisposto con i quattro joypad, credo sia stato il primo, ma sicuramente qualcuno mi smentirà, però direi che no, forse il no, Jaguar era, cioè... no, era il 64 quello con le prime quattro porte, ok, quello. E poi vabbè, il e appena prima con lo SNES mi ricordo partite con l'amico mio che era appassionato, perché io proprio no, con International Superstar Soccer Deluxe, cioè il precursore di PES, col multitap che costava come il gioco, perché pagò quello 170.000 lire e il multitap un'altra 90 o 100.000 sì, lire. Sì, era bel roba. Multitap sempre anelato per certi giochi, ma ed era mai strepitoso con, sì, col sì, gioco, sì. Con quel gioco era strepitoso. Quando poi arrivò nel 64, uno dei migliori multiplayer fu Mario Party, insieme a Mario Kart 64. Ma adesso mi date, intanto mi danno già il Nintendaro in altri lidi, quindi me lo darete pure qua. E poi LAN party, sì, LAN party sono stati altre cose divertenti con Neverwinter Nights, dove uno faceva il master addirittura e gli altri facevano il giocatore, il slave, esatto. Poi vabbè, e Call of Duty il primo, Soldier of Fortune, ce n'era un altro, Medal of Honor mi sembra, insomma, Medal of Honor, Medal of Honor mi sembra sì che ce l'avesse. Comunque sì, anch'io pure sono passato più o meno per le stesse tappe. E ancora oggi il multiplayer forse era quello che citava prima Luigi, ma sentendomi male, e che credo sia quello, nel senso in cui uno gioca ma gli altri assistono un po', che è praticamente il multiplayer che faccio oggi con gli amici, è cercare un gioco che abbia una storia decente o abbastanza o talmente assurda da essere ridicola, e uno gioca e passa il joypad mentre gli altri stanno intorno, commentano e... oppure consigliano. Uno degli ultimi è stato Dead Island, che effettivamente giocato così rende ancora di più. Ma devo dire, cioè, rende di più, non è che ci voglia molto. Già, scusa, già una modalità multiplayer comunque la prevede già di per sé. Una sì, però, online. Però non nella stessa stanza. Sì, sì, certo, certo. Ah, e poi piccolo aneddoto, e poi vi lascio piccolo aneddoto, cioè vi lascio la parola. Sì. GameCube, compriamo Resident Evil, il primo rifatto, il Rebirth. Gioco io 4 di mattina, cioè tutti a guardare lo schermo vedono il personaggio che... in uno spigolo si pianta e comincia a correre. Non so se vi ricordate, correva lo stesso, continuava a correre. E c'è questo personaggio per minuti, secondi correva. Ero io, mi ero addormentato sul joypad e tenevo praticamente in avanti il personaggio e quindi camminava così, e mi svegliavano a forza i coppini. Ma scusa, non bastava che giocasse qualcun altro? No, sì, però lì per lì facevo: no, voglio giocare io, mio, ho portato io. Quando la quinta volta quasi incastrava, mi hanno detto: senti, caso, però loro si divertono perché io sono particolarmente sensibile, però salto molto con questi giochi, quindi prendo tutti questi giochi Resident Evil e si divertono a vedermi che mi spavento mentre gioco. Anche in compagnia. Posso fare una proposta un attimo che non c'entra niente, ecco. Ma se io, te e il distruggitore facciamo dei walkthrough dei videogiochi col commento di tutti e tre insieme, tipo Gialappa, secondo me famo un canale YouTube che spacca tutto, insomma. Dei giochi di paura, poi. Vabbè, poi ne parliamo al di fuori ne parliamo fuori, sì, sennò ci rubano l'idea, perché già c'è veramente fatto e ce n'è già uno con Simone, però è in sospeso, quindi vabbè, poi ne parliamo, dai. Ne parliamo perché noi siamo più simpatici, non so chi era, però noi siamo più fighi comunque. Una brevissima interruzione, se questo pensavo che facevi una buzza, immagini. No, vabbè, ma quelle le sto facendo già da un pezzo. Comunque, okay. Se dovesse andare in linea entro sabato questo episodio, ricordiamo a chi già ci sta ascoltando eventualmente che domenica sera alle 21:30 in diretta ci sarà un puntatore di archeologia videoludica. Non ce la farà mai. ZX81 contro Vicky. Dovrebbe uscire domani, te ne rendi conto? Sì. No, potrebbe uscire sabato. Ma anche domenica, certo, sabato dopo domani. Sì, è vero. Ce la posso fare. Ce la posso fare. No, ma lo so che ce la puoi fare. Io ti consiglio di non farlo per comodità, però vabbè. Per non sentire poi tutti i rumori di sedie. No, ma io non me frega anche, cioè, io non è che mi metto a fare il denoiser avanzato. Andiamo avanti. Prego. Allora, io direi di passare quindi a voi, Marco Gualdi, sì, ad esempio. Esatto. Tu narraci. Senza lui, qualcosa che è stata la partita di FIFA 12. No. Allora, cioè, a parte le partite con Pizzi, che tanto sappiamo che giochi tutto col tuo fidanzato, lo sappiamo. Esatto, è così, tanti bei giochini. Allora, io, a parte io l'online, quello lo mettiamo un pochino da parte. Diciamo, sì, io pure, giochi... io pure, scusa, mi taccio. Io pure non ho parlato perché poi l'esperienza più sottile, cioè la più debole che ho fatto, è stata quella online di oggi. Basta. Poi se mai ne parliamo. Esatto. E, no, io il multiplayer l'ho vissuto innanzitutto sull'Atari con i primi giochi che giocavo con qualche amico mio, addirittura con mio padre. Mi ricordo lì, io e lui giocavamo molto a Gauntlet, non so se lo conoscete, che era possibile giocare in cooperativa. Cazzo. E quindi giocavamo con questo gioco che praticamente per caricarlo, siccome che su Atari non c'era il Turbo Tape, erano 230 giri solo per caricare il gioco. Più c'erano 30 Atari, giri. Giriamo lui la 800 computer, XL. Esatto. Certo, l'800 XL. C'erano 230-240 giri di nastro per caricare il gioco, che era tipo mezz'ora. In più c'era il caricamento dei singoli livelli, che andavano i primi 5 livelli e poi di 3 in 3. Quindi immaginatevi un po' che bella rottura di Duval. E ci facevamo le sessioni proprio di ore, giocare a Gauntlet, proprio a fare soldi, ammazzare mostri, e ci divertivamo un fottio, insomma. Poi io vorrei fare un veloce accenno sui suoni di Gauntlet, che erano stupendi, erano le cose più incredibili che abbiamo mai sentito. I fantasmi che morivano. Sì, sì, sì, avevano dei suoni. Ma anche quando mangiavi, quando prendevi le cose, le pozioni, no, come si chiamavano? Sì. Il sidro. Boh, aveva dei suoni stupendi quel gioco. Bellissimo. Ineguagliabili. Comunque, scusa l'interruzione. L'ho sperimentato con il Pizzi quando facevamo i giochi online. Erotici e quindi, sì, perché su FIFA sono i giochi online erotici che è FIFA, una FIFA dove praticamente ho imparato una serie di bestemmie che io non sapevo neanche che esistessero in dialetto napoletano. Fantastico, è veramente la creatività dei bambini oggi è fantastica. E poi a parte quello, poi abbiamo giocato a qualche demo multiplayer, a Uncharted. Sì, Uncharted, sì. Uncharted l'abbiamo giocato. I bizzettoni che volavano. Bizzettoni, voglia, sì. Perché Marco, giustamente, avendo sempre giocato offline, si approcciava al multiplayer come il gioco normale, no? Quindi lui si appostava, si metteva dietro la copertura, quelli che correvano dappertutto. Faceva il camperone. No, ma neanche, cioè, proprio. Il camperlaio. Aspettavo che la routine di movimento si ripetesse. Non riescono tanto. Tanto riscappano. La copertura, capito? No, non funziona così il multiplayer. E ma una merda così. E poi niente, invece di. Però grosse player, risate, grosse risate. Voglia, ma quello, cioè, se non c'è giochi per ride, non c'è genuri che ci giochi, sennò. E invece, per quanto riguarda proprio il multiplayer, dove mi sono più dedicato, sono DC Universe, che ho disinstallato dopo un mese. Dico, mamma mia. Che veramente sì, cioè, penso che tu sia uno delle tre persone che l'ha giocato, ma no, perché era gratis, era gratis. No, ma neanche per quello, pure io che sono solo per scaricarlo su una nottata. È vero, è vero. Sì, è bello, bello 12 giga. Sì, una cosa del genere. Sono diventati patch, 30 adesso. Ragazzi adesso sì, con le patch, è vero, più con le pezze invece adesso mi sto direttando a The Old Republic, che è quell'altro bellissimo gioco di ruolo che sta online, che sta morendo. Gioco di ruolo è una parola grossa, c'è il gioco, c'è un ruolo, sì vabbè, però per me giochi di ruolo sono un'altra cosa. È fatto da BioWare soprattutto, tra l'altro. Che fa dei giochi stupendissimi. C'ha pure i dialoghi, è scelta multipla. Bellissimo. Da quando poi è passata sotto la EA, anche una qualità superiore, diciamo, a quello che aveva prima. Però insomma mi è talmente piaciuto che mi sono ristallato KOTOR prima, me lo sto rigiocando. Accannando completamente il gioco online. Però insomma, vabbè, queste sono le mie esperienze. Ma hai fatto bene, assolutamente, assolutamente. Vado io. Vadi Pizzi, vadi. No, veramente sono Giuseppe. Infatti. Ah no, cioè, vi ho confuso, cioè, no, davvero mi sembrava la voce di Simone Pizzi, io non. Vabbè, è vero che andiamo dallo stesso barbiere. Sì, ma poi c'è, cioè, di Roma, sentiti uno, sentiti tutti. Cioè, sono tutti uguali. Questi italiani, questi italiani. Non li distingo l'uno dall'altro. Vabbè, io, come esperienza significativa, veramente, il multiplayer locale l'ho cominciato ad apprezzare più che per quanto giocassi in contemporanea sia a casa che appunto al bar, più nelle sale giochi. In particolare, diciamo, l'amore per i giochi multiplayer mi è nato con i primi picchiatura scorrimento, quindi Double Dragon, che ricordiamo era uno dei giochi che se giocavi in coppia con un amico c'aveva pure alla fine la scazzottata finale per ottenere il bacio della fanciulla, quindi c'aveva, diciamo, un finale aggiuntivo tra virgolette, un secondario col multiplayer. È stato uno dei primi. Poi un altro che ha sdoganato una cosa del genere sempre in sala giochi, ricordiamo, era Bubble, dove praticamente effettivamente per vedere il miglior finale bisognava essere in due a raggiungere l'ultimo livello, la centesima caverna, se ricordiamo. Sì, ce lo dice. Sì, lo diceva pure Babic durante. O Bortolotti durante un podcast. Diciamo, da lì comunque mi sono sempre divertito il multiplayer, anche perché hanno sempre preso piega i picchiaduro nelle varie iterazioni, quindi anche i vari Street Fighter, Mortal Kombat, Virtua Fighter e quant'altro, Soul Calibur, eccetera. Insomma, là mi è sempre piaciuto appunto il contatto a fianco con qualcuno, anche se ricordiamo per esempio che in Giappone è un po' diverso, perché in Giappone loro hanno per esempio il cabinato dell'avversario, tipo ti sta da, dall'altro lato, non so se avete perché, mai visto. Perché è proibito esatto. Guardarsi, perché sennò poi si devono tagliare un dito. Sì. Scusate, chi è che sta giocando col taglierino? Che da o con la penna. 40 minuti. Che... Sì, sì, sì. Stavo per dire la stessa cosa. No, ma non capisco che rumore sia. Non lo so. Ma lo vedete dal. Da chi si illumina? E chi si illumina? Marrone? Quando... Luigi? No, non è Luigi. Non c'è proprio. No, sento un po'. Luigi? Ragazzi, ah, no, Luigi, lo sento anch'io il suono, ma non sono io. Io lo sto. Anch'io sento un po'. O qualcuno gioca col taglierino o un pluribolo. Con la penna, non lo so. Sì, ecco, ecco. Poi. Vabbè, ma se non siete voi, non siamo. Ecco, adesso, esatto. Adesso non sente più. Adesso l'ho sentito. Adesso di nuovo. E forse sei tu Biggio. Quando hai l'aria nello pancino, Stefano. No, muovo le mani senza rendermi allora, conto. Allora, Pizzi, prova a mettere muto un attimo il microfono. Vediamo se lo fa. No, ma come fai a mettere muto il microfono? No, Pizzi, non ha messo il microfono. Sì, però devi metterlo muto il microfono. Ma sti cazzi, dai, non sappiamo chi è. Sarà un fantasma. Dai, andiamo avanti. Bella Phantom. Poi, diciamo, come esperienze online, anzi, diciamo, mezzi online, cioè solo di LAN private, ovviamente appunto i LAN party fatti con, a partire da Quake, Duke Nukem 3D, Unreal Tournament, anche se insomma là c'era cioè, mi ricordo con nostalgia tutta quella fase di preparazione, allora c'è un po' come quando organizzi una partita di calcetto, no? Allora ci vediamo a casa di lui, mi raccomando, tu porti questa cosa, il tuo magari proprio il tuo cassone di PC, tu hai diversi cavi Ethernet, insomma tutta questa preparazione, poi di configurare anche la rete, se vi ricordate. Mamma mia, sì, che sì, insomma sì. Tutto, magari a volte ovviamente anche sotto DOS, non, già all'epoca del DOS era difficile, esatto. Far partire i giochi, figura deve far partire i reti, quindi e poi noi diciamo, in quei giorni sì. Capivamo la differenza tra switch e router, esatto. Cioè. E poi diciamo l'ultima mia esperienza che ho avuto proprio agli inizi di quel gioco, quando è nato, quando ovviamente già era commercializzato, non sto parlando di closed open beta, proprio quando era già agli inizi venduto tutti i negozi, era World of Warcraft. Perché diciamo, a me piacevano i giochi di ruolo, quindi purtroppo non ho mai avuto la possibilità di giocare ai suoi, diciamo, antesignani, che erano, che so, Ultima Online, perché le Ultima Online ci sono delle leggende da raccontare. I miei non volevano, insomma, mettermi farmi giocare troppo e pagare la bolletta telefonica, anche perché ancora non c'eravamo la DSL, quindi ma non c'era proprio sì modo. Esatto, c'era la connessione col 56k, esatto. Insomma, occupavi il telefono e poi insomma arrivava pure una bolletta cara, stavi, anche perché ricordiamo un MMORPG richiede ovviamente al pari di un qualunque altro gioco con abbastanza tempo ovviamente per stare. Poi se non sbaglio, magari sì. Tu forse te lo ricordi meglio, nel senso magari come storia, io adesso me la ricordo vagamente, ma Ultima Online non è stato il gioco online dove ci fu il primo esempio di protesta? Sì, tutti dentro il palazzo al castello di Lord British che fece crashare tutti i server. Sì, sì, sì. E lui dovette tirare tipo palle di fuoco, sì. Da che ne so, 150 milioni di punti HP. Sì, anche se comunque ti ripeto, la mia esperienza con quest'altra, in realtà, ti ho detto proprio prima, con gli MMORPG è anche unica, perché appunto sussiste un altro problema che magari, se poi volete anche introdurre, appunto il fatto che io ho dovuto smettere dopo essermi effettivamente disintossicato per un paio d'anni a World of Warcraft, proprio perché a me creava davvero dipendenza, gli MMORPG comunque creano dipendenza. Esatto, l'ho sentito. E avevo cominciato proprio ad accorgermi che, a parte che da quando avevo cominciato a giocare a World of Warcraft, di fatto per me era quello l'unico gioco che giocavo, cioè avevo smesso di giocare, che so, ai tempi con la PlayStation 2, con le altre console, cioè non esisteva nient'altro all'infuori di World of Warcraft, non solo dal punto di vista videoludico, ma anche stavo cominciando a notare che uscivo anche di meno con gli amici per andare al cinema, per fare altre attività. Beh, Peppe, tu considera che World of Warcraft è il gioco a cui Stefano Biggio giocava le prime due o tre puntate di ideologia videoludica. Ma non è vero, io ho smesso molto prima. Click, era lui che giocava. Ho smesso molto prima. Poi vi parlerò anche delle mie esperienze online, che sono forse quelle più hardcore tra le vostre. Comunque, tuttora, vabbè, gioco a qualche gioco in multiplayer. Non sono ovviamente amante, ma chi mi conosce lo sa. Tu devi fare una cosa. Quando ti prende di giocare a World of Warcraft? No, ma non mi prende più, perché io proprio, ma se dopo ti fosse, quello, ho smesso. A un certo punto ti viene che dici, cacchio, forse sto ricadendo nel tunnel con un altro gioco. Prendi SWTOR, cioè World Republic, oppure DC Universe, e ti passa. Ma ti passa, vai tranquillo. Proprio, è tipo la sigaretta elettronica, perché ti serve per disintossicare. Ti ho detto, vabbè, comunque, gioco alle modalità multiplayer quando insomma mi va, e soprattutto quando ormai mi piace giocare. Un altro aspetto, purtroppo, ovviamente, quando devo recensire un gioco, gioco in multiplayer con chiunque. Però quando diciamo è una mia partita privata, io comunque anche all'interno delle partite multiplayer evito di fare un matchmaking con estranei. Preferisco comunque ritrovarmi con due o tre amichetti e giocare con loro, insomma. Pure, cioè, gente che conosco comunque. Cioè, a me non piace più giocare con estranei pure multiplayer. Anche perché bestemmiano. Sì, o ti prendono loro gli insulti perché dall'altro capo ci stanno bimbi minchia di. No, no, appunto, poi a questo punto a questo discorso ci arriviamo. Sì, no, vabbè, era insomma un po' era per concludere il mio excursus di vita sul multiplayer. Simone? Bene, Simone. Simone io? No, sono io che mi chiamo da solo adesso. Non si può mai sapere. Io lo faccio, parlo di me come Simone Pizzi. Lo fa stesso come Simone Pizzi. Il famoso imprenditore Brianzolo, quindi. Sì, ma anche tuo padre parla di sé in terza persona. Un posto. E niente, vabbè, al di là del. È inutile, insomma, fa tutto l'excursus del multiplayer, nel senso in locale, perché. Ecco, poi dopo, cioè, la cosa veramente, io penso che il multiplayer più divertente della mia vita è stato, forse anche perché è stato l'unico, è stato proprio, ecco, i Doom, i giochi dell'ID, insomma, quelli sono stati i giochi che ci siamo veramente divertiti, perché eri più pischello, perché c'era proprio un altro clima, perché c'era proprio la novità, ed era una novità, prima, esatto, di allora, bravo, non esistevano, diciamo, bravo, sparatutto in soggettiva con più giocatori. No, è vero, era il fatto della novità, ma anche il fatto di costruirla, la lamparti, mettersi lì a chittare, costruirla o giocare, anche perché in quel periodo con questi giochi, poi subito dopo, diciamo, crebbero in successo gli editor di mappe, quindi anche il bello di giocare all'interno di mappe magari costruite da personalizzate. Esatto, personalizzate. In linea massima sul discorso online, invece, è completamente, cioè, io sono una delle persone meno online della faccia della terra, cioè, nel senso che veramente penso di non aver mai giocato di mia spontanea volontà, nel senso proprio da solo. Ti ho visto giocare a Scopa Online. A Scopa Online, sì, è vero. Però con te. E anche a Razzle, sì, sì. A Razzle, sì, ma a Razzle solo perché c'avevo il trucchetto. Voglia, Peppe. Peppe mi ha sempre stracciato. A un certo punto ho installato il trucchetto. No. Allora, ma io l'ho detto, però, perché ho detto, a che scopo giocare a Razzle se so che quello che ho fatto io lo possono fare anche gli altri? Allora l'ho disinstallato. Vabbè, comunque, al di là di questo, a parte le esperienze con Marco fatte per giocare, per divertirsi, insomma, il multiplayer. Il multiplayer è specifica esperienza, esatto, per divertirsi in multiplayer. Multiplayer, in cularella la chiamate così. Sempre multiplayer, anche multiplayer pure quello, però. Bisogna essere due per fare il cularella. Sarà single player. No, è molti, comunque. So che tu hai confusione da sto punto di vista, insomma. Bah, purtroppo, si fa quel che si può. Però dico, allora, insomma, non ci ho avuto mai grosse esperienze, anche perché io sono molto riflessivo quando gioco. Sono come Marco, se io mi metto a fare, che ne so, Gears of War multiplayer, ma posto, capito? Cioè, ma posto, mi danno il muletto e aspetto che vedo una capoccia e sparo, capito? In realtà in quel momento già mi hanno massacrato il 60, quindi. Sì. Allora, le mie esperienze. Un'altra cosa, sì, no, una, prego, camperata l'hai fatta, Marco? Una camperata, col cecchino, no? Sì, col cecchino, eh? Che cazzo di gioco era? Sempre la demo di uno di sti giochi di guerra. Sempre di giochi guerra. Di guerra. Sì, però non mi ricordo che gioco quale di questi qua era. Che certo c'era sta demo ed era la demo solo multiplayer. E Marco si è appostato dietro a degli alberi impromonibili, roba del genere. E li e non lo trovavano. Quella è la cosa bella. Che per la prima volta lui, che è la prima volta che gioca. È un rotto gioco, perché anche non trovavo nessuno io. Non mi vedevo, non quindi, vedevo. Quindi la sua presenza è stata che lui è stato 40 minuti online all'interno di questa partita senza morire mai, ma in realtà non ha neanche ucciso nessuno. Probabilmente ero andato nel gioco a fianco. Esatto, si era caricato una partita da solo. Esatto. No, c'erano anche ammazzato qualcuno. Sì, poi dopo qualcuno ha sgamato. Si è impuzzito. Quelli che vanno l'è venuto a ammazzare a quel punto. Come dice Nino nel suo articolo di dietrologia videoludica, che poi citeremo e racconteremo la prossima volta. Ok, vai Stefano. Bene, allora penso di essere quello che ha avuto più esperienze multiplayer online e non. Perché sono sempre goloso, è proprio goloso. Guarda. Sono un sei un cavallo goloso. Un cavallo goloso quasi. No, perché in adolescenza mi hanno sempre lasciato più o meno lo stato brado con i videogiochi, senza grossi problemi per LAN. Quindi videogiochi in generale. Insomma. Esatto, in generale libero di pascolare. E quindi con vari, appunto, non tanto Doom, forse più Duke Nukem per quanto mi riguarda, e Quake 3. Ah, i più giocati online alle LAN. Poi vabbè, tornando più indietro, sicuramente ho dei grandissimi ricordi di Double Dragon con i miei cugini in due, eccetera eccetera. E poi per i Morpg sono stato a lungo tempo un enorme drogato di Ultima Online, di quelli hardcore che si facevano le 6 del mattino, andavo a letto quando sorgeva il sole, mi svegliavo, andavo al mare, tornavo a casa, dormivo e tutta la sera riprendevo a giocare le ore e ore e ore, insomma. Perché, 24... bella vita sociale, perché lavorare e studiare. No, beh, andavo al mare. No, allora, per quello poi sta in Svizzera, perché in primis avevo 15 anni, quindi potevo anche farlo, 15-16 anni. Poi hanno inventato i cinesi, no? Esatto. Al tempo i cinesi. Negli shard italiani non c'erano, quindi erano altri tempi. E poi al tempo, appunto, la vita sociale la facevo in molta tarda mattinata e di pomeriggio. E poi il problema forse era che giocavo con le persone con cui uscivo, quindi uscivamo, parlavamo di Ultima, tornavo a casa, giocavamo a Ultima, il che è ancora peggio, cioè ti rende ancora più drogato perché il tuo mondo ruota intorno a quello. E poi idem World of Warcraft, a cui ho giocato dalla prima espansione sino alla penultima, quindi a quel c'è Mist of Pandaria che dovrebbe essere fino alla terza puntata di Orologia. No, ho cominciato come te all'inizio, proprio con Vanilla. Dopo che finì l'open beta, però mi sono fermato alla, cos'era, Burning Crusade la prima. Burning Crusade la prima. Eh sì, mi sono fermato là, anche perché già un po' con tutta la storia di level cap, di nuove cose, poi magari serviva a rerollare un altro personaggio, non ce la facevo più. Io invece posso portare la testimonianza della mia ragazza, che l'ho dovuta staccare a calci. Da World of Warcraft, perché sì, perché dopo era più interessante dopo... di te, diciamo. Cioè. No, prima di conoscermi, ti dicono tutti così. Attenzione, ha cominciato. Cioè la ragazza videogiocatrice. Sì. Ha cominciato pure coso Star Wars The Old Republic. Però per fortuna quello è durato molto di meno. Ma World of Warcraft penso che abbia fatto 8 anni, 7-8 anni di continuo multiplayer. Ma l'hai conosciuta lì? No. Non è un caso che ancora oggi, cioè, al di là dei cali ovvi, insomma, che però, insomma, ancora oggi stiamo parlando del fenomeno per eccellenza, no? Penso che non World of Warcraft, sì. Siano è un po' il Facebook del multiplayer. Vabbè, è il Lost del multiplayer. Nonostante... È brutto da dirlo, ma cioè trovare qualcuno che si ricorda Ultima Online è tipo trovarsi tra vecchi. Vabbè, però è diverso lì, esatto. No, sai, secondo me è un problema generazionale, esatto, cioè, secondo me cosa mi ha permesso di non diventare, nel senso, io ho fatto parte anche delle guild hardcore di World of Warcraft, dove facevamo i raid tutte le sere tranne il fine settimana, che ogni tanto scopare, eccetera eccetera. No, per fare il raid ci vuole una preparazione assurda. Ma come facevi tutte le sere? No, tutte le sere tranquillamente su Skype. ride, eccetera, eccetera. Si rideva, ride, tutti i giorni, ore. E, però, ecco, non ho mai sentito, come dire, la droga. Non è che ho smesso di uscire, eccetera, eccetera. Uscivo comunque nel fine settimana, come sarei uscito comunque, anche senza World of Warcraft. Sì, forse non... perché mi ero disintossicato con Ultima. Sì, scusa, ecco, Stefano, mettiamola ma così. Non avvertivi comunque in qualche maniera una certa pressione quando dovevi dire appunto vederti tutte le sere, c'era l'orario che dovevi diciamo essere più o meno puntuale, poi a quell'ora si cominciava, poi magari bisognava riprendere perché si era whippati tutti perché qualcuno si era dovuto un attimo allontanare. Dalla mia ragazza c'erano dei nazisti proprio, cioè, se non ci avevi tutto preciso non potevi rientrare, non ti facevano entrare. E lo dico, ma comunque tutta questa pressione non la... Giocavo tipo persone... Marco in un'altra partita, tu giocavi da solo. Esatto, giocavo da solo in un server nel mio computer. No, allora il punto è che in quel periodo lì non avevo console, quindi avevo praticamente solo il PC e giocavo solo a World of Warcraft, più che altro anche perché no, avevo anche una PSP, però non... Vabbè, quindi hai detto bene, non avevi console. Sì, praticamente, cioè console d'accesso tra virgolette, insomma, comunque non è che fosse, non era una console come può essere l'Xbox, quindi chiaramente potevo dedicare più tempo a World of Warcraft perché c'era solo quello. Dai, diciamo che c'era pure un vantaggio che girava anche sui tostapane. Sì, discretamente, sì, e aggregava, perché comunque mentre tu cercavi di, come dire, craftare, sì, livellare. A questo punto, dato che ci siamo già arrivati, no? Poi volevo un parere da Luigi, che sicuramente non ci ha mai giocato, e da voi che invece ci avete giocato. Che cos'è? La maggioranza. Proviamo a spiegare un attimo questa cosa che vi piace. Cioè, che cosa ti piace. Che cos'è che veramente aggrega o addirittura fa diventare World of Warcraft o il gioco online, magari in generale, no? Beh, il gioco di ruolo online. lo fa diventare quasi una malattia. Gioco di ruolo inteso come gioco di ruolo? Non penso, Stefano, perché comunque... Cioè, No, gioco di ruolo inteso come ambientazione fantasy, tra virgolette. Ecco. Sì, perché appunto, perché come role playing vero e proprio, cioè... No, fare ce una n'è. Parte, questo non c'è, a meno... Cioè, anche nei server più... mi pare che c'erano i server role playing, ma in realtà, esatto, comunque beccavi poi a un certo punto tizi che avevano, come noi, nomi improponibili o la sospensione dell'incredulità cadeva subito, ovviamente, perché poi non so se una cosa che diciamo a me ho cominciato a disintossicarmi anche per un altro motivo, almeno io personalmente, perché una cosa che mi dava fastidio appunto quando poi perché sicuramente chiunque abbia giocato un MMORPG avrà giocato con più di un personaggio, no? Quindi magari un secondo personaggio se lo sarà fatto dopo che il primo è, insomma, l'hai fatto arrivare a raggiungere un certo livello, no? E la cosa brutta è che poi, anche se ormai tutti i giochi di MMORPG hanno comunque molte aree di partenza, molte regioni con queste variegate, ma fondamentalmente c'era una certa ripetitività di fondo che a un certo punto a me proprio ha dato fastidio, perché comunque fondamentalmente le tipologie di quest erano sempre le stesse. Ammazza X mostri, vai a fare la missione di scorta, vattene in quell'altro punto per prenderti gli oggetti ammazzando altri mostri. Fondamentalmente erano sempre queste. Ma perché è un sistema di reward che ti fagocita. Sì, cioè, è un sistema. È un po' come tipo. Io lo paragono tipo alla presente la ruota del criceto. Che in realtà tu giri, ma non vai mai avanti, effettivamente. Sì, esattamente. Però appunto, proprio di questo volevo. Nel senso, allora cerchiamo di capire. Poi che cosa ti attrae? No? Che cosa attrae? E poi soprattutto, che cosa fa in modo che questo mondo che ti ha attratto diventi poi, non dico la malattia, ma insomma diventi allora, un'ossessione, a no? A me diciamo la... Poi dopo volevo parlare anche degli aspetti pratici, perché c'è tutta una parte social particolare, una sorta di etichetta anche, ecco, come diciamo, ci sono alcuni clan, alcune gilde, oggi alcune cose che vogliono che tu ti comporti in una certa... Cioè, nel senso, c'è tutto un sottomondo, no, che alla fine non diventa un po' eccessivamente... ossessivo, controllato, come io troppo alternativo, cioè nel senso. Vabbè, io intanto dico solo cosa mi piaceva e poi vai. L'altra parte facciamo a ruota e poi torniamo su cose che invece. Cioè, a me quello che mi ha all'inizio attratto era appunto il fatto di poter esplorare un mondo che era ovviamente immenso, come appunto quello delle lande di Azeroth. E soprattutto il fatto che la gente con cui interagivo, tranne ovviamente NPC esclusi, erano comunque altri giocatori con cui potevo appunto scambiare, chiacchierare, eccetera. Tutta questa cosa che ovviamente era una cosa che per me già vedevo riproposta quando giocavo invece non ai videogiochi ma ai giochi di ruolo cartacei. Quindi fondamentalmente insomma tutte queste dinamiche di scambio, di socializzazione, finalmente me le vedevo attraverso uno schermo filtrate. E soprattutto sapevo che in ogni caso potevo comunque sempre a qualunque orario collegarmi e trovare qualcuno che mi desse una mano per mi aiutasse, nessun consiglio, semplicemente mi tenesse compagnia. Detto molto triste. Poi siamo detto. Questo all'inizio. Poi ti ho detto via via queste cose. Ci vuole un violino zigano in sottofondo. Via via queste cose hanno perso il loro appeal, ecco. No, ma perché in realtà io anche ho giocato ai giochi di ruolo cartacei, no? Particolarmente Dungeons and Dragons, sì. Classici, no? Però lì è un gioco di interpretazione dove in quel momento. Magari dei medesimi anche, no? Però è un gioco di fantasia. In realtà il problema del gioco online da computer, quindi il videogioco, c'ha questo problema qua, che in realtà la fantasia viene sostituita da una rappresentazione virtuale che in qualche maniera diventa più che immedesimativa. Quindi quando ci si incontra e si chiacchiera online, o roba del genere, cioè in quel momento tu sei Saso, Andreozzi, Biggio, Marrone, o sei Safatol, Ziggeban, Sborromir, cioè. Io sono sempre Sborromir. Questa è una cosa che a me mi ha sempre incuriosito, in quanto io nel gioco online non mi ci sono mai avvicinato perché ne percepivo parzialmente il fascino e allo stesso tempo non so perché ci ho sempre avuto quel campanello d'allarme. Scusa, ma no? Tu nel gioco comunque online, specialmente agli inizi almeno, comunque non facevi comunque, anche se appunto non facevi il gioco di ruolo in sé di impersonare l'elfo, ma comunque non necessariamente ti potevi presentare per come sei realmente nella vita reale, quindi cioè, non penso che quando giocavate anche tu, Stefano e Yalt, insomma, o anche Simone a World of Warcraft, al primo che passa gli dicevate: guarda che nella vita reale mi chiamo tizio e no, a parte su ultima, io sono un'eccezione da sto punto di vista, magari diciamo comunque consideriamo pure il fatto che per esempio c'erano e ci sono tuttora per esempio giocatrici, e penso che la fidanzata di Simone questa cosa la può confermare, anche Simone stesso, che per esempio utilizzano un avatar che so anche maschile per evitare appunto che gli rompono il cazzo, esatto, sì, di avere rotte le palle, quindi c'è il fatto che comunque ha avuto sempre il coso femminile, il personaggio femminile, effettivamente. Però so che certe volte se ne doveva fare qualcuno di basso livello, qualcuno maschio ce l'aveva, insomma. O anche viceversa, però, magari chi è che si faceva l'avatar femminile veniva inondato di avance. A differenza, però, io posso dire una cosa, e questo non perché ho giocato online, ma in generale, da quando io quasi da subito, quando io ho avuto internet e ho partecipato alle chat, ai forum, roba del genere. Irk, ragazzi, io sono sempre stato Simone Vizzi. E credo che Schero veramente. Poi all'alba, quando ancora veramente erano i primi tempi e c'era la fissazione, cioè il nick non era solo il fatto che tu c'avevi un nick, era proprio il fatto quasi una difesa, no? Nel senso, alla fine mi proteggo quasi, no? Cioè, chissà che. Io sono sempre stato. Se voi andate a cercare anche su internet, è raro che mi trovate con dei nick. Io o sono sempre stato Simone Pizzi, o sono sempre. Che noia, però, che sei. Pizz, cioè nel senso PTZ, perché sennò non. No, ma è proprio perché io non ho mai avuto questa percezione. Infatti, la gente spesso e volentieri era disorientata quando giocava o interagiva con me, perché... Ciao Simone Pizzi, come ti chiami? Simone Pizzi. No, dai, nella realtà Simone Pizzi. No, cagare. Esatto, no, ma è così. Tant'è che addirittura c'era un forum dove era un gioco di ruolo c'era proprio un thread, ma Simone Pizzi, come si chiama? Tu dovevi interpretare un cadetto della flotta stellare. E quindi ovviamente ti iscrivevi al forum e tutto quanto, e c'era tutto le regole, roba del genere, ero Simone Pizzi. Cioè, poi qualcuno diceva, vabbè, ma non è pure un po' scarsa fantasia? Sì, però, cioè, se devo essere un elfo nella spada di Shannara, allora mi chiamerei Shea Onsford. Sono un cadetto della flotta stellare, quindi una cosa che è molto più vicina a me, nel senso anche come certo, realtà. Certo, che domani si va. Beh, se c'è uno che si chiama Chakotay, tu ti puoi chiamare Simone Pizzi, scusa. Cioè, con la Y avevi risolto. Sì, esatto. Pizzi. Non capite un cazzo, questa è la verità, la vostra ignoranza, la continuate a nascondervi dietro di voi, nickname. Io direi di riprendere il filo del discorso, ovvero... Nel multiplayer, quali sono le cose che vi spingono, a continuare a giocare al multiplayer più del single player? Faccio un esempio. Io me lo chiedo come voi, perché cioè io farei partire Luigi, innanzitutto, che è mezz'ora che sta zitto. Cioè. Sì, basta. No, ma a parte zitto, quello, no, volevo fare un esempio per dare una mano per tutti. Madonna buona, non fa dirvi niente. Comunque. Faccio un esempio, in World of Warcraft i suoni e le immagini ricordano quelli utilizzati dalle slot machine per aumentare la dipendenza, perché il cervello viene stimolato in una maniera particolare in modo da sentirsi gratificati nel fare determinate azioni. Con le slot machine sono i suoni e le luci, in World of Warcraft sono sempre i suoni e le luci, quindi in questo caso sono gli achievement, il suono che fa l'achievement, eccetera eccetera, ad esempio, anche per ecco cose estremamente inutili. Esatto. Ad esempio, in questo caso, Luigi, nei giochi online, anche se tu non sei un grande giocatore, cosa ti ha spinto? Ti ha portato a proseguire il gioco, magari per un periodo anche relativamente lungo? Qual era l'elemento che nel tuo caso ti ha spinto? Ma guarda, scusate, no vabbè, è atterrato, è andato, se sono venuti a prendere dalla flotta stellare, sì, lì, sì, sì. Era il comunicatore. Comunque, scusa Luigi, prosegui. Sì, niente, si dovrebbe parlare secondo me di vari tipologie di multiplayer che non sono state per niente analizzate e che magari vado a fare un'introduzione, almeno così spiego di cosa si sta parlando. Faccio un esempio. Vi ricordate, che ne so, Splinter Cell, Pandora's Tomorrow? Praticamente è stato un gioco che ha inserito la tematica guardie contro ladri, che era una cosa, se vogliamo, abbastanza elementare come concetto, però era carina, insomma, da vedere in un gioco online. E questo è un tipo di riconoscimento che tu puoi avere poi quando riesci a ciuffare un ladro o a scappare una guardia, e questo è un tipo di gioco che mi gratificava. Però mettiamo anche caso diverse forme di multiplayer, quelle che per esempio ha creato Demon's Souls, Dark Souls, quella di Journey per esempio, che non sono totalmente delle forme di multiplayer come le conosciamo, cioè una squadra contro un'altra. C'è più una sorta di cooperazione, nel Journey è completamente mascherata perché non sappiamo con chi stiamo giocando, che nome c'ha o altro, e in Demon's Souls, Dark Souls invece è in maniera totalmente a volte traslata, attraverso anche, diciamo, lo scambio quello dei messaggi lasciati, no? Sì. È un nuovo tipo di multiplayer questo qui, è comunque multiplayer, cioè nel senso è comunque una cooperazione di multigiocatore che poi va a sfociare in un tipo di multiplayer, ed aggiungo un altro tassello, che è quello del gameplay asincrono. Mettiamo caso Facebook o vari Animal Crossing. O anche lo stesso razzo che diceva prima Simone, che tu devi aspettare il turno dell'altro avversario per poter... esatto, giocare. O Civilization Online, sì, magari chi ci gioca, cioè tu continui una partita con un altro utente iniziato, condividi un'esperienza che paradossalmente non c'è la presenza ad personam dell'altro, quindi sono tutte strane forme di multiplayer. Se dovessi dirti fra queste, ma probabilmente mi sono sentito gratificato, come diceva, come Giuseppe dice, con persone che non sono delle sconosciute, ho giocato online con persone che conoscevo e che quindi ho condiviso gli obiettivi comuni, anche perché, cioè, ricordiamocelo, magari il multiplayer è un patto sociale non scritto, cioè si dovrebbe giocarlo teoricamente con l'ascolto reciproco, con l'agonismo sportivo, con l'organizzazione più o meno, un gioco di squadra, qualifica, una coordinazione, sì, sì. Che però non sono, sono cose che molte volte sono fallaci anche offline, cioè difficilmente trovi, siamo sportivi noi, ci ascoltiamo nella vita di tutti i giorni o cooperiamo chissà che, ecco che quindi multiplayer specchia un po' questa nostra realtà, quindi apprezzo il gioco. Aggiungiamo il piano dei bambini che moltiplica il problema, sì. No? Sì, sì, ma è proprio la possibilità del completo mascheramento che fai poi in multiplayer, della responsabilizzazione che sia verso le proprie azioni, a favorire ancora di più questo elemento di, diciamo, di svaccamento. E io vi consiglio, vorrei consigliare un libro molto bello, che adesso abbiamo parlato di multiplayer, ma abbiamo citato anche forme di multiplayer in cui non c'è in realtà né il contatto fisico, né la presenza fisica di un'altra persona al nostro fianco, come avveniva un tempo, né tantomeno la presenza sullo stesso piano temporale, ma asincrona. Il libro si chiama Insieme ma soli, sottotitolo Perché ci aspettiamo sempre più da tecnologia e meno sempre dagli altri, è sempre meno dagli altri, chiedo scusa, è di Sherry Tarkle, che è una ricercatrice, l'ho trovato anche in italiano, ed è un libro illuminante su quello che davvero sono i paradossi che si sono creati in questa ipersocializzazione delle nuove tecnologie e il senso di solitudine, come diceva Peppe su per quanto riguarda World of Warcraft. Io penso che è sintomatico un atteggiamento di dire sto molto tempo lì e non sto molto tempo fuori, perché ovviamente lì avevo persone con cui mi incontravo, chattavo e parlavo, è una sorta di riproposizione di un modello sociale a livello virtuale, nella quale invece c'è la totale alienazione, la sociopatia per certi versi. Anche, scusami, il discorso che aveva detto pure Stefano, cioè che poi mi rivedo con le stesse persone magari che conoscevo e con cui giocavo a World of Warcraft in altri ambiti, quindi fuori a prendere una pizza eccetera, e ci ritroviamo a parlare comunque anche se non stiamo giocando di quel gioco. Sì, sì, sì. Eh sì, perché quello è il terreno su cui vi siete conosciuti e dove avete creato l'identità. Questo vale però per tantissimi altri ambiti. Aspetta, no, io parlo, cioè io ho avuto esperienze di diverso tipo anche con persone con cui ho iniziato a giocare molti anni dopo averle conosciute allo stesso gioco, e viceversa persone che al contrario ho conosciuto tra virgolette, esatto, in gioco, perché magari amici di amici che conoscevo solo di vista, e grazie al gioco abbiamo iniziato a uscire, e io adesso magari li sento grazie al gioco. Probabilmente se non avessi giocato a World of Warcraft con loro non li avrei frequentati, parlo di cagliaritani, ecco. Vabbè, quindi vabbè, ma perché sì, c'erano sì, anche sì, se sì, ti ricordi i tempi di World of Warcraft, non so se tuttora si fa ancora, tipo anche che so il raduno di Gilda, cioè quelli fisici, sì, cioè, ma io li ho fatti, esatto, ma quelli di Ultima li ho fatti, sì. Ho degli amici che sono andati anche sino a Genova a fare il raduno del server, no, insomma. Guarda, Stefano, che favorisca poi la conoscenza offline, questo è un merito, un valore, una virtù indubbia che ha poi il multiplayer, quando la possibilità di rincontrarti. Sì, però il problema del mondo è che però spesso e volentieri quel tipo di conoscenza si limita sempre a quel tipo di esperienza. Ma perché, e questo, se vogliamo fare un affondo sociologico su questo aspetto, noi già facciamo difficoltà a traslare attraverso le tecnologie che abbiamo la nostra personalità, il nostro essere. Già facciamo difficoltà quando ci incontriamo a far venire fuori noi stessi totalmente. Prima di arrivare a conoscere una persona, molte volte ci vuole del tempo, bisogna toccare dei tasti particolari, non è che la conosci così. Ecco che la tecnologia va ancora a creare un imbuto ancora più ristretto, e quindi tu sei conosciuto prevalentemente attraverso gli aspetti di gioco in una realtà virtuale, e quando sei fuori ovviamente tu vai a toccare quegli aspetti perché sono quelli attraverso cui credi di aver conosciuto la persona, ma in realtà non sono poi esattamente quelli. Io sai quanti amici ho che ho conosciuto su Gears of War, faccio uno fra tutti, ma dove sei? Ah, di Pescara, io di Chieti, ciao, incontriamo, siamo incontrati, mi siete state sulla alla fine non abbiamo. No, siamo praticamente diventati amici, però l'esaltazione era ti chiamo quando esce il nuovo Gears of War, parliamo, diciamo questo, vado anche in casa tua, diventiamo amici. Però se usciamo fuori dall'ambito, tipo ti invito al mio matrimonio, non esiste. Non mi inviti nel mio matrimonio, non mi inviti a casa tua al tuo compleanno, non segni la mia data. Cioè, è come se inquadrassimo la persona solo per quell'ambito videoludico e riferissimo la nostra eccitazione nel conoscere soltanto a quell'aspetto lì. E, è difficile che si creino poi delle amicizie durature da un altro punto di vista, cioè più umano, più... per intenderci. Sì, sì, sì. Sì, questo, però questo, ho detto, succede... per qualsiasi gruppo di appassionati che si incontrano in rete. Poi questo è un problema, non so se specifico della rete o se è un problema in generale, però ecco, io per esempio ho fatto parte per anni di un forum di videomakers per... dove aveva un nickname che era... Simone Pizzi. Esatto. E la password era Simone, tra l'altro. Ma secondo me, guarda, non è un problema della rete, è un problema di come si mistifica, il misunderstanding che crea la rete quando tu ci vuoi approcciare. All'inizio mi ricordo, porto veramente, io ero uno che ci ha giocato quando... molto però su questa cosa, nel senso, avendolo intuito molto prima di tanti altri, cioè nel senso che alcune persone si facevano ingannare, altre persone invece riuscivano a capire la potenzialità dell'inganno. Quindi io sono uno che ci ha giocato molto su questa, su questo aspetto qui, e forse a volte anche magari forse, ecco, poi magari il senso di responsabilità mi ha portato magari a non affondare troppo, però veramente, cioè, ci sono state certe situazioni o certe conoscenze, ad esempio, che uno era potenzialmente in grado di fare qualsiasi cosa, no? Perché tu avevi costruito questa mitologia intorno a te, che era ovviamente filtrata da un monitor e poco altro, e poi magari dalla voce, perché per telefono, roba del genere, quindi, cioè, ma sì, poi conta che dipendono anche gli strumenti che ti permette a disposizione la piattaforma. Io quando sono entrato in Xbox Live, faccio questo esempio perché mi sembrava sintomatico proprio di tutto il multiplayer, ti si apriva, sono aperti dei canali che io nemmeno sospettavo dal punto di vista proprio dell'eccitazione dell'incontro con l'altro, l'emozione di viaggiare, un'interconnessione planetaria, l'atteggiamento che c'è di deferenza all'inizio verso il giocatore che non conosci, le chat notturne, chi sta vicino a te, parlare di nuovi videogiochi, parlare in inglese o altre lingue se le conosci, scambiare le opinioni, magari mandarsi anche l'altro paese, e senti una sorta di comunità col mondo che prima invece, chiuso nella tua stanzetta ovviamente o con un numero ristretto di amici, non hai. Quindi c'è un'esaltazione proprio, io la intendo anche molto spirituale da questo punto di vista, perché ti sembra che i contatti si espandano, cioè a livello proprio di coscienza dici, guarda, sono in contatto con un obiettivo comune, qua è culturale quello che sto facendo, cioè il videogioco ci mette in contatto, elimini l'intelligenza artificiale totalmente, fai giocare una realtà umana. Però poi cosa succede? Perché io questo magari farei come domanda, perché poi facciamo un passo indietro rispetto a questa eccitazione iniziale e si cerca soltanto il proprio amico o gli amici con cui giocare per condividere certe esperienze, e non ci si vuol perdere più in questa immersione quasi depersonalizzata? Secondo me c'è un fattore anche di età, nel senso che io ci ho provato proprio quando ho iniziato. Pensa che sono passato dalla, diciamo, pirateria alla, o comunque dalla console modificata, che non necessariamente era tutto pirata, però insomma dalla console modificata alla console originale, proprio per godermi il live. E quando ho provato, sarei voluto tornare a come era prima, perché secondo me sono fuori target anche per il tipo di impostazione che ha oggi il multiplayer online. E infatti per quello oggi, se gioco, preferisco avere qualcuno che conosco, sia in lista amici che almeno che sul PC, ecco, per organizzarmela prima e ritrovarmi, magari per farmi presentare qualcuno da un amico, che farlo io, cioè che cercarlo io in giro, proprio perché ti ritrovi in mezzo a insulti, oppure non ti capisci, oppure non ti capiscono, c'è proprio un problema di comunicazione, oppure semplicemente perché, diciamo, c'è un altro problema che magari ti può anche dare fastidio e farti odiare il multiplayer, il fatto che ci sono a volte anche degli emeriti stronzi coglioni che si divertono semplicemente a renderti la vita impossibile. Esatto, la vita sì, ma dell'età nostra, no, dell'età nostra anche è difficile. Altre, no, per tutte le età, i coglioni ci sono per tutte le età. Infatti, il problema fondamentale, no, no, questo no? È vero, assolutamente. Il problema fondamentale è che nel senso che c'è gente che magari vuoi perché è annoiata, eccetera, oppure non frustrati, esatto, che magari diciamo in una partita deathmatch a squadre si diverte proprio a fare perdere la propria squadra, ma nel o gioco... anche per esempio negli MMORPG, non solo in World of Warcraft, ci sono anche chi che quelli tipo delle altre fazioni che si divertono ad andare nelle capitali della fazione opposta, magari nelle aree di partenza dei PG di primo livello, che so, per impedirgli di giocare insomma in quel determinato momento. Ok, sì, sono atti vandalici, esatto. Atti vandalici. Bullismo. Online e sono gratuiti, sì. Per cui si fanno. Infatti, si dice, il vandalismo è bello, no, perché è gratuito. Mi hanno raccontato che i primi tempi, quando aveva PlayStation, aveva aperto Home. Dice che c'è stava la gentaccia. C'è stava brutta gente che si metteva in mezzo a due che stavano uno davanti all'altro e conversavano e faceva su, giù, su, giù. Su, vabbè, giù. Vabbè, la mossa, vabbè, la mossa su e giù del phone ci sta pure. E pensa, cioè, che queste persone sono state espulse da Home e purtroppo poi. Non ci sono più rientrati. Non ci siamo più potuti rientrare. No, nel senso, vabbè, a fare le cazzate va bene, no? No, cioè, ci può stare una volta che te metti. Ma è bellissimo la gente che ci guarda, cioè, parlava tra noi, su e giù, e si fermavano, non parlavano più. Cioè, due pupazzetti che ci osservavano. Ma può essere che ci sta gente che perde tempo a mettersi davanti a me e te e a fare su e giù per rompermi il cazzo, perché veramente, cioè, e però. L'ho fatto perché per me era una sperimentazione, non perché mi divertiva a rompere le scatole, al di là della risata che mi posso essere fatto, perché in realtà non c'è la gente, no, io... di persone che giocano online, ma di quanti di questi qui sanno veramente giocare, no, online? Ma infatti non sappiamo giocare online. Il problema è che mi sono accorto, mentre che poi voi facevate alcuni accenni piano piano, è che in realtà una puntata come questa è infinita, esatto, aprirebbe una marea di temi che non finiscono mai, e secondo me allora a questo punto continuiamo rimanendo sul discorso del multiplayer e sulle vostre osservazioni, però poi probabilmente ristrutturandola meglio, magari pensandola anche con Luigi, potremmo provare a concepire una nuova puntata con degli aspetti a un livello superiore, cioè nel senso parlando anche proprio dell'aspetto personale, comportamentale e soprattutto anche sociale di quello che è ovviamente il discorso del multiplayer, perché la roba pesante la lascia a Luigi, no, capito. Certo, no, sta perché, lì apposta perché lui... No, perché lui ha fatto delle riflessioni che in realtà m'hanno aperto, cioè nel senso m'hanno aperto un altro tipo di domande che io adesso farei a voi, e che però se mi metto a fare queste domande non usciamo via, non la, esatto, non la finiamo più. Allora ho pensato, ok, se un altro tipo di livello di discussione la dobbiamo fare, la dobbiamo scrivere, la dobbiamo pensare la puntata, no? Questo è ovvio, no? Penso, giusto Luigi? Beh sì, se vuoi organizzare in maniera più discorsiva un affondo sociale, quindi partecipiamo tutti quanti, magari facciamo una scaletta doc e discutiamo una punto per doc punto Brown. I vari aspetti. Doc Brown. No, a sì. Me, tanto per dire una cosa, che per esempio oltre a questo discorso qua del insomma della gente che vuole provare insomma a fare qualcosa di diverso, magari infastidendo o non rendendosene conto che stai infastidendo gli altri, un'altra cosa che diciamo, a me poi mi ha un po' appunto allontanato dal multiplayer, specialmente con magari estranei, è il fatto che magari per quanto la persona che sta dall'altra parte dello schermo può essere anche ben disposta nei tuoi confronti, a volte per esempio lo notavo appunto con World of Warcraft, l'ho notato recentemente con Borderlands, che fondamentalmente ha sempre le meccaniche degli MMO, no? È questa cosa che meccanica che magari ti dà una mano per fare determinate quest, magari lui è anche più potente, no? Quindi praticamente tipo va avanti lui, ammazza tutti i mostri e tu praticamente lo segui senza giocare. cioè il ritmo di gioco si rompe completamente nel multiplayer. È una cosa che, perché sono magari prediligo invece il punto nel single player, dove ho un ritmo molto più dilatato. Non so se a voi questo capita, o se per voi diciamo il ritmo è indifferente tra multiplayer e single player, o non lo percepite questo? Sì, no, è diverso. A me per esempio non, cioè, un ritmo del multiplayer così non piace. Ecco perché appunto preferisco o giocare con gente che magari conosco ed è ben disposta comunque a tenere il mio di passo, anziché essere costretto a fare il contrario, quindi a tenere io il suo, oppure preferisco magari anche fare sessioni molto più brevi, che quindi sono solitamente quelle dei giochi fondamentalmente con modalità horde, deathmatch, eccetera. Quindi esulano da esperienze multiplayer ludiche più lunghe, quali quelle degli MMO, RPG per intenderci. Sì, sto pensando una cosa, me la butto lì. Il multiplayer ha rimpiazzato un po' quella che era l'ansia del punteggio, sì, e quindi della progressione, che il single player invece ha soppiantato. Single player, adesso faccio un nome su tutti, penso a Metal Gear, ma buttiamola lì, a noi non ce ne frega di quanto è il nostro punteggio di Metal Gear, tant'è che alla fine veniamo ripagati con una sorta di o medaglia o premio eccetera, se non abbiamo ucciso persone, quante ne abbiamo strangolate, quando siamo stati in silenzio, quando abbiamo fatto scattare l'allarme e via discorrendo. Mentre il multiplayer va a conteggiare il punteggio, ti fa aumentare di livello, c'è una distinzione di base basata su appunto su una sfida anche numerica. Ma lì dipende domanda, anche però, dipende, perché per esempio in giochi come nei nuovi giochi di corse, con tutto il concetto di autolog, tu fai un single player che però si riflette automaticamente sul multiplayer. Sì, ce ne sono tanti altri in cui c'è questa comunicazione fra multiplayer e single player. Però dico, una volta si giocava per il punteggio molte volte. Beh sì, anche perché non c'erano scopi, e quindi l'unica cosa che potevano inventarsi, esatto, il designer era. Allora a questo punto le domando, e qui magari facciamo intervenire pure Stefano, che pure lui sicuramente c'ha la sua da dire, spero, insomma, no? proprio perché una volta si inseguiva il punteggio, e il videogioco tradizionale quello era, e che il videogioco oggi, come abbiamo detto in tantissime altre occasioni, in tantissimi altri episodi, si è un po' trasformato e quindi non è più quella concezione classica di videogioco che c'era un tempo. Il multiplayer, proprio per quello che ha detto Luigi, dove diventa, che ha sostituito l'inseguimento al punteggio, allora è diventata una sorta di enclave, di rifugio o di isola felice dell'hardcore gamer che non sente più quell'esigenza e quell'inseguimento che c'ha col gioco normale? No, allora aspetta, in primis non ho ben capito la domanda, l'ho ascoltata ma non l'ho capita, che è ancora peggio. No, allora perché rispondi se non cosa certo? Vuoi sapere? No, che il single player, tempo, il single player è il rifugio dal multiplayer, no, dici da, no, dal allora, multiplayer, quello ho detto, se no. Allora il multiplayer, anzi il single player oggi non dà più quello stimolo, quell'inseguimento al punteggio a tutti i costi, no? Così come faceva il videogioco tradizionale, dove il videogioco tradizionale per ovviamente l'unico scopo era quello di fare tanti punti. Allora Luigi ha detto che il multiplayer in parte ha sostituito questa esigenza dell'inseguimento del punteggio, no? Giusto Luigi? Sì, l'ha sostituito, e non solo nel multiplayer come lo conosciamo noi, ma anche per esempio è assimilabile alla crescita di livello di un World of Warcraft, okay, un personaggio, quindi lì. Se lo ha sostituito, dire, significa che il single player non dà più quello stimolo. Allora a questo punto quello che mi domando è: il multiplayer è diventato una sorta di enclave o di isola felice o di rifugio, il multiplayer dico, di tutti quegli hardcore gamer che non trovano più quello stimolo appunto nel gioco single player, che è diventato un'altra cosa rispetto se se hardcore gamer vuol dire celodurismo, celodurismo, certo, allora beh, ma se tu lo intendi così quello è, ragazzi, no, cioè quelli che dicono io sono hardcore gamer, Cioè, chi, cioè, che vuol dire? Cioè, nel senso, specifichiamola pure questa cosa. Sei un videogiocatore massiccio, sei un giocatore assiduo, sei un giocatore che ha giocato a tutto, sei uno è bravissimo quello. A giocare ai videogiochi. No, è uno che gioca e che ne sa, e che ne vive, che ne parla, e che si dice. Esatto. Un insieme di cose. Certo. Sì, no, il core gamer spesso e volentieri è quello che ti dice: io gioco a Demon's Souls. Ma non staremo a fare podcast. E non sono mai morto da inizio alla fine, perché io c'ho il cazzo. No, quello è nel 85. No, quello. C'è sta gente che. Ah, beh, certo, c'è sta pure chi si mangia. Tanto per rimanere. Oh, fermi tutti. Cioè, ho sognato Gianni Morandi, ora che ci penso. Ecco, apposta, a proposito di... Mi è venuto in mente in questo istante. Ed era roba che riguardava il suo vizietto. Comunque, a parte questo, effettivamente sì, cioè il multiplayer dà comunque la possibilità di confrontarsi con tutto il mondo, e quindi di poter confrontare i propri punteggi, ad esempio, con quelli di tutto il mondo. Puoi essere il migliore del mondo, non il migliore, non solo il migliore del tuo paese, per dire. Quindi sicuramente ha fatto... ha aperto le porte anche a un altro tipo di fruizione, di sfida su scala globale. Poi ci sono chiaramente quei giochi dove e quelle persone soprattutto che continuano a essere interessate solo al punteggio, al proprio punteggio, diciamo. Ecco, io trovo noiosissimo ad esempio fare le parti di cosiddetto time trial, ditelo come volete, con un eventuale gioco di macchine o uno shoot 'em up, ecco, quelle cose lì dove devo correre, eccetera, eccetera, mi mettono fretta e basta, ok, faccio dei punteggi maggiori, però boh, non mi hanno mai interessato. Al contrario, magari mi era capitato, ad esempio, di giocare, mi ricordo per DS, non so per quale oscuro motivo mi ero messo a giocare a... cos'era? Il Mario e le Olimpiadi di Pechino, una cosa così, un gioco. Un bel gioco deve essere. Un bel gioco, sì, no, era mi ricordavo un po' Track and Field. Se e Nintendo c'ero rimasto... è tutto bello. Partiamo da questo. Esatto. No, e c'ero rimasto un po' con un altro amico, ecco, con un altro amico, con Vittorio. C'eravamo messi a competere perché c'era la possibilità di mandare i propri punteggi nella classifica Nintendo. E sia io che Vittorio eravamo riusciti ad arrivare tra i primi posti nel mondo, quando ovviamente non era ancora aperto né ai coreani né ai giapponesi, quindi eravamo ancora in un territorio percorribile, in un paio di come si dice di discipline eravamo tra i migliori del mondo, eccetera eccetera, ma cose che solitamente non ce ne sarebbe mai fottuto una benamata mazza, ecco. Però sì, sicuramente quello era il corrispettivo del andare in sala giochi o nel giocare con gli amici e dire ho fatto più punti di te, ma al di là del sì, forse in parte anche con un po' di celodurismo, però c'era quella la sfida, ecco, era forse più l'agonismo del celodurismo in questo caso, perché poi chiaramente c'era chi ti superava poco dopo e così via, insomma ti offriva la possibilità di confrontarti con tutti e lo facevi volentieri, cosa impossibile sino a relativamente poco tempo fa. Quindi personalmente sì, penso che sia che la cosa sia traslata, ma che siano comunque rimaste sia le persone che a cui non interessano queste cose, come sono tuttora io ad esempio. A me dei punteggi me ne è mai fregato niente, sono proprio più interessato a portare a termine il gioco, al massimo che se il gioco mi dice guarda puoi farlo anche in quest'altra maniera qui, magari cerco di farlo in quell'altra maniera lì, come appunto faccio per esempio Luigi, non lo so, uccidendo tutti i nemici senza utilizzare le armi da fuoco, per dire, insomma con altri metodi, ma non tanto per una questione di punti quanto per una questione di esperienza. Le ammazzi a pegorinate. Sì, ecco, ma qua, a chiacchiere proprio. Come in Fall Skies, giusto. Esatto. Lui, prendo per debolezza. Sto pensando, prego. Scusa, provo no, finito. Quando ti costringono certi obiettivi a un gioco in multiplayer forzato per sbloccare degli obiettivi assurdi, o comunque è una cosa che fondamentalmente c'è una forzatura della socializzazione. Tu vuoi avere 1000 punti, vuoi avere il platino su PlayStation e via cantando. e sei costretto magari a giocare con qualcuno, perché lo facciamo assieme, facciamo un coop. Tu magari non hai nemmeno voglia di fare il coop, però per quell'obiettivo vedi Halo in leggendaria, cosa del genere. Anche no? Mass Effect c'è questo problema, però, il terzo, no? Se non mi sbaglio, sì, che, e tra per avere un punteggio. E tra parentesi, questo problema è aggravato oggi col discorso di un'altra cosa che è fondamentalmente uno dei talloni da killer del multiplayer online. Ossia che devi essere connesso e il server deve ancora esistere. E ci devono essere giocatori presenti sul server. Che ti ho detto, attenzione, appunto, magari per i titoli più famosi è una cosa che diciamo è sicura, ma per molti altri titoli minori non è detto, appunto, dopo un certo numero di settimane dal lancio del gioco. E tu allora poi come fai a sbloccarti questi obiettivi? O anche metti caso un domani che tu questo gioco lo vuoi riprendere a distanza di uno, due anni, per esempio, come farai se che non, magari il server non c'è più? Sì. Cioè, questo è poi. Poi paradossalmente il gioco, diciamo, è come se col multiplayer, che diciamo ti davano modalità in più per giocare, poi in realtà loro col tempo ti levano pezzi di gioco. Perché appunto non sì, c'è più il server, sì, eccetera. E quindi ti tarpano le ali fondamentalmente. E qua si può fare un'altra parentesi per quanto riguarda poi il multiplayer ficcato, esatto, a forza nei videogiochi. È semplicemente un servizio che viene pianificato a monte quando si sta creando il concept, sì, del videogioco, magari anche come un seguito tipo Dead Space 2 che prima hai citato tu, o anche il multiplayer di Mass Effect 3 o il multiplayer di Mass Effect 3. E cosa succede? Succede che praticamente invece di creare un videogioco a livello di game design che prevede un multiplayer che sia ricco, che vada ad arricchire l'esperienza, mettiamo caso Call of Duty, no? Che fondamentalmente è difficile considerare in maniera distaccata il multiplayer del single player. Molte volte lo si compra per l'uno o per l'altro motivo, tutte e due, ma sono la stessa identità. In certe esperienze invece è qualcosa di avulso totalmente l'esperienza multiplayer, ficcata a forza perché viene pianificata dicendo ok, ce l'ha quello, ce l'ha quell'altro, ficchiamoci anche nel multiplayer, creiamo un comparto che si occupa del multiplayer, che collabori con quelli del single player e via cantando, tutti felici, Electronic Arts paga, è tutto bello. E poi escono delle cose che sono totalmente prive di anima rispetto alla realtà del single player. E non solo, ci vanno a destinare anche delle risorse. Immaginate come avrebbe potuto essere Mass Effect 3, adesso stiamo parlando di Electronic Arts, quindi magari c'è un fottio di soldi, se non avesse investito nulla nel multiplayer e avesse detto concentriamoci tutto sul single player. E guardate che questo qua cambia i giochi letteralmente, o quantomeno li modifica, fa diventare una realtà veramente superiore. Che cambia i giochi anche dal punto di vista strutturale, no? Sì. Visto considerato che il multiplayer lo devono ficcare, anche i giochi con determinate caratteristiche alla fine subiscono una trasformazione anche nel gameplay, proprio perché anche nella parte single player alla fine risente il fatto che quel motore deve girare nella stessa maniera, cioè deve essere predisposto comunque ad avere anche una parte multiplayer, no? Penso che deve essere adattato, sì, anche al single, ma quello ormai tanto c'è, sì, usi in Unreal e va da solo, sì, però non, sì, è, no, che guarda, cioè, ma magari, no, ma Simone, magari fosse così a livelli forti, allora avresti un'integrazione fra le due parti, magari, che ti fa creare un gioco che ha un'identità unica, forte, riconoscibile. Ma quando invece lo trovi appiccicato sopra, ma sto parlando delle prime esperienze quando le fecero su Xbox, vi ricordate The Darkness? Sì. Fu una delle cose proprio che io guardai e dissi, ma che cavolo c'entra con il gioco meraviglioso che io ho provato, una stupidaggine, e poi l'hanno riproposto in altre realtà, ma sono delle cose proprio... Pensa quando lo vedremo in Dragon Age 3, allora. Ma non lo so, adesso come... Altri soldi, no? No, nel senso che Dragon Age 3... Sicuramente, no? Ce l'ha il multiplayer? Dai, ma che fanno? Non ce lo mettono. Beh, guarda, se seguono le vie... se seguono le direttive di PlayStation 4, dove uno può fare il Game Master, si aprono infinite possibilità in positive. Ma su PlayStation 4 penso che pure qui bisognerebbe fare un episodio anche più a breve. Ricordiamo, noi abbiamo provato a fare una diretta con... Devastante diretta. Con Luigi c'era anche Stefano e tutto quanto. Probabilmente, sì, è stata la nostra prima esperienza di una diretta, seguendo una diretta, quindi è stata un po'... complicata, insomma, però sì, penso che una puntata per riassumere, no? Però si è perso di traccia. No, no, c'è. Non l'abbiamo mai rilinkata, ma c'è, volendo è a disposizione, insomma, di chi la vuole ascoltare. E vabbè, il discorso pure qui di PlayStation 4, insomma, rientra in un discorso, però e una riflessione la faccio molto velocemente. Quando abbiamo parlato di PlayStation 4 in quella diretta, e quando tutti i capoccioni di Sony saliti sul palco dicevano: ora vi spieghiamo quello che noi abbiamo capito che voi volete, no? Che è una cosa che a me mi fa venire sempre il terrore, perché sì, ok, sicuramente questi faranno dei loro studi, le loro statistiche, anche se sappiamo che la statistica non è una scienza perfetta. Come ci insegnano lo hanno dimostrato gli exit poll, esatto, recentemente. Il discorso è che tu decidi quello che io voglio perché sai quello che io voglio, o perché tu lo decidi e basta, e prima o poi mi convincerai che io lo voglio. E la stessa cosa col multiplayer, no? Il multiplayer oramai l'hanno schiaffato in ogni dove, perché loro presuppongono che tu lo voglia. Se funziona da una parte, funziona dappertutto. Questo è quello che penso. Ma in base a cosa, Simone, lo presuppongono? In base a interessi economici. Cioè loro hanno investito tantissimo nella ricerca, e quindi hanno creato praticamente, hanno saputo che a livello mondiale, immagino come fa una ricerca poi Sony, immagina, ricopre tutto il globo, affinché dice la gente, la maggior parte della gente che videogioca vuole o vorrebbe questo, e allora su questo però perdonami muoverci. Luigi, cioè loro fanno una ricerca a livello globale che è influenzata dal 60% della popolazione coreana che sta 24 ore su 24 online, ok? Che quella fa statistica, ma in realtà non è rappresentativa. Ma se quella gliela comprano in futuro la PlayStation 4, gliene frega. Ho capito, però tu non puoi fare lo stesso ragionamento perché la Corea ti ha condizionato una statistica sul territorio globale. No, ma sicuramente non sono così bassi di ragionamenti come adesso stiamo presumendo. Forse la Corea l'abbiano tagliata fuori. Comunque quello è il meglio che si possa ottenere dopo le ricerche che hanno fatto davanti. La tendenza è multiplayer, e se non è proprio la totalità, comunque si impegneranno a fartelo andare bene. Quindi scusa, e si permettono di dire poi questo è quello che volete. Pensate che FIFA e PES non siano influenzati dalle vendite in Italia o in Brasile o in Spagna o in quei posti dove il calcio va tantissimo. Cioè è come se noi fossimo i coreani del calcio praticamente. Quindi soprattutto su PES. Sì. Insomma. Ma infatti quanta gente farà uso del tasto share? Tira molto più Simone, scusa un attimo, pensa un attimo, quanti utilizzeranno il tasto share per un gioco tipo la butto lì su PlayStation 4 e il nuovo Ratchet & Clank rispetto allo share di un gol mirabolante fatto su FIFA o PES? Cioè è normale che la gente dice cazzo, ah, ti faccio sto gol e poi lo mando in YouTube o Facebook o sul PlayStation Network e ti umilio davanti a tutti, oppure me ne gaso, quanti voti riceverò, un gollone. Cioè c'è anche questo nella mente di Sony quando dice vendiamo, presentiamo in Occidente, che magari sai in Giappone le che ne freghi poi tanto del calcio, delle possibilità. Ricordiamo che in Giappone giocano i giochi dei calcio a turni, quindi insomma come dovrebbe essere il calcio davvero per me, cioè, perché io ci possa giocare, no, poi, dovrebbe essere così. Tu ci scherzi, ma io in realtà ho visto recentemente che ci stanno questi giochi di ruolo tipo misto tra Final Fantasy e 11. Esatto, bravo. Però in realtà loro hanno fatto una cosa che io ci avevo pensato, tipo i giochi a calcio a turni con le super mosse dei cartoni di calcio, la ridicolata una volta, no? Però spesso e volentieri una decina d'anni fa e anche prima mi ragionavo sul fatto cos'è che si presta meglio di un gioco di ruolo per un gioco di ruolo che una partita di pallone, perché in realtà lì è tutto un fattore di combinazioni ruolistiche, ci stanno i tank statistiche che stanno in attacco, ci stanno i ma intendo ci sono gli healer che stanno in panchina che entrano con quelle cose magiche e curano i giocatori, certo, come no, c'ha un senso il fatto del gioco di calcio a turni, cioè nel senso non è una cazzata, cioè come ce l'hanno fatto, non è, ma no, loro l'hanno fatto perché ti hanno rubato c'è il cartone animato di Ollie e Benji con quelli che stanno in aria per 20 minuti, fanno la tripla catapulta mortale, quelli poi sono giapponesi, lasciano saperne. Però in realtà poi alla fine sta cosa era, non era, vabbè, comunque. Beh, scusa, no, ma comunque ad esempio potrebbe dare il là a un gioco di calcio a turni asincrono, a un tipo di multiplayer asincrono dove tu fai la tua mossa e poi quando l'altra persona si collega fa la sua mossa e dopo aver ricevuto la tua, diciamo, potrebbe essere una, anche quella una forma di multiplayer stile estremamente giapponese con delle particolarità invece estremamente occidentali come quelle del calcio, insomma, più puro. Certo. Ecco, chiaramente non dico di fare un PES a turni, dico di fare un Izuma Eleven più occidentale, ma neanche un Izuma Eleven asincrono coi turni, sì, più, un po' più occidentalizzato, quello sì. Una cosa così, in realtà sì, anche questo si collega per conto di digressione parzialmente al multiplayer. E a questo io dico, se avete chiuso il vostro argomento, se volete continuare, ditemelo voi, se no passo. Ma io ho finito. Luigi, c'era qualche, o anche gli altri ovviamente, se volevate. No, più che altro fra un po' devo andare. Quello anche io, o domani sarò uno zombie. Non te l'hanno detto, veramente vai tranquillo a registrare. Vai, vai a giocare, vai, me l'ha detto. Comunque. Sì, allora, poi io ad esempio vedrei un pochettino là gli esempi, non so se ne vale la pena o se conviene farlo, gli esempi negativi di multiplayer forzato, ecco, dove è stato marea. Sbagliato, sì, ce ne sono davvero tanti, così appunto, a occhio e croce direi che appunto quello di Dead Space 2 è sicuramente un multiplayer superfluo, che è stato messo lì solo per dare un po' più di vita al gioco, per allungare un po' il brodo, e che effettivamente questa cosa sembra una tendenza del periodo creata ad hoc, perché Left 4 Dead è un gioco che vive di multiplayer e al contrario Dead Space è un gioco che è un gioco in single player, se non cioè è diverso da un gioco come un Army of Two o un Gears of War dove puoi anche fare delle, o anche un Resident Evil, ecco, dove puoi fare delle cose in cooperativo. In questi casi voi ad esempio qual è stato il multiplayer che avete magari provato che vi è sembrato estremamente sbagliato? Chiedo a Cognome ad esempio, che da un po' che è zitto, dove il multiplayer è proprio sbagliato? Sì, che hai provato e dici no, qui il multiplayer, cioè proprio l'hai provato perché era dentro il gioco. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption è imbarazzante perché è inutile, perché praticamente consiste in questo open world, praticamente il mondo, poi mi ricordo non precisamente, ma quello che mi ricordo è che sta in questo open world dove vai a cercare, a fare i fortini dei cattivi, vai a cercare le parti delle armi che poi ti danno multiplayer company, ma non... Mentre il mondo si presta in qualche maniera al single player, perché comunque ti senti sperduto, perché insomma sei tu contro l'ostilità dell'ambiente e tutto quanto, quando c'è qualcuno che o ti viene contro, perché poi può pure ingaggiare un combattimento, o ti aiuta e lo senti e senti che ti arriva la voce, perché poi c'è un raggio d'azione, quando tu ti avvicini abbastanza a un personaggio puoi sentire quello che dice con live, e senti un 14enne che canticchia, oppure senti Lady Gaga nella radio che poi ti mettono pure la musica, cioè ti rompe qualsiasi, ti rompe il gioco e ti rompe la voglia di provarci. Poi in tutto ciò che la linea dell'Xbox, solo la linea telefonica mia, oppure la linea quella wifi che ti passa l'audio sulle cuffie, è ridicola, quindi non riesci a capire niente, e mi sono trovato a andare con uno e faceva cosa che ti ammazzo, ma così proprio, adesso ho preso questo, lo senti lontano perché ti hanno, e adesso ti ammazzo, guarda che non so neanche chi sei, ma che vuoi, perché poi non lo sentivo, non lo vedevo nella mappa. Però per giocare a multiplayer dovrebbe essere come per le votazioni, bisognerebbe averci un'età, una patente obbligatoria che dà una certa età, poi detto, perché comunque cioè, la maturità non è solo biologica purtroppo. Sì, è vero, hai ragione. Sì, però ragazzi, però cioè è veramente, oltre che non si presta il gioco, perché appunto sei abituato a cioè il bello di Red Dead Redemption è proprio domare quell'ambiente, cioè avere, non dico tutto sotto controllo, ma avere un ruolo in quella storria e un ruolo in quel mondo che comunque ti dà l'idea di essere resistente e persistente a te. E così viene completamente rotto. Vabbè, cioè, il gioco delle parti. Che poi questa cosa mi ha fatto ricordare quando stavamo a giocare a multiplayer a Uncharted. Uh-huh. E quando mi si avvicinava un certo tipo di soggetto, sentivo che sto ragazzino sempre napoletano che fa: oh, io voglio rompere il culo. E quando si sentivano due, tra l'altro una coppia che erano tedeschi. Esatto. Stavo girando un film snack. Esatto, che stavano a fare roba fra te. Cioè, mentre che lui giocava, lei faceva altro. Cioè. E quindi era lì, cioè, capisci? Cioè, vabbè, hai portato comunque anche un altro esempio, tra virgolette, di no, ma poi esatto, multiplayer pure inutile, come esatto, cioè, cioè, Uncharted è un gioco divertente, ok? Quindi che lo giochi, io lo gioco in single player e in multiplayer non me ne frega un cazzo, però ci può pure stare che lo giochi in multiplayer, però il problema è quello che dice Simone, no? Tu stai lì e sei medesimato in un'ambientazione e ti senti perché ti ha passato vicino uno, poi io ho sentito delle cose veramente ignobili, insomma, vabbè. E quindi quello anche per quanto poco ho giocato, però almeno uno brutto, uno deprecabile da dirti, insomma, ce l'avevo. E quello è uno. E... Che ricordiamo, Red Dead Redemption è il gioco che dimostra che multiplayer e zombie oramai li schiaffano dappertutto. No, sti zombie hanno rotto il cazzo. Lo ridico, mi hanno fracassato. No, però posso dirti una cosa, zombie, che paradossalmente fu uno dei primi. Perché... Sì, no, ma allora è un buon DLC per Red Dead Redemption. Almeno scassato il cazzo in generale. Non in Red Dead Redemption. Ma veramente non c'ha senso. Beh, no, aspetta, nella storia aveva senso come DLC, ovviamente. Cioè, aveva una sua trama. Campagna in single player. No, io non l'ho giocato, quindi no. Però, cioè, no, allora, cioè, il senso ce l'aveva. Era molto meglio di tanti altri DLC, sicuramente. Però, ecco, e non era neanche in un periodo dove c'era la zombie invasion, che qualunque cosa dove tirarci fuori lo zombie. Li trovo più inutili in Call of Duty, ecco. Cioè, lo zombie mode è divertente come modalità, ma l'ambientazione mi ha fracassato le palle. Questa è un'altra questione, non è colpa di Call of Duty, è colpa di tutti in generale. Tutti soprattutto noi. Tu, a Pizzi. Comunque. A me vedi in realtà un'altra cosa, che in realtà tu, non è un esempio deprecabile, però mi è venuto in mente che l'abbiamo trattato in realtà di un altro aspetto del multiplayer, quello, diciamo, di giochi che non sono giochi, tipo appunto Second Life, oppure il successo che c'è stato con Minecraft, cioè la cosa bella di giocare assieme, nel senso, quest'altro aspetto, che giocare solo per stare assieme, non per conseguire uno scopo, appunto, che... Perché questi giochi non c'è, fondamentalmente sono giochi dove tu vai a costruire mondi, e poi li mostri agli altri. Io non ci sono mai andato, ma se ci fossi andato, piano, uno alla volta. Dico, non ci sono mai andato su Second Life, perché anzi ho provato a farmi l'account, poi già solo che potevo scegliere fra 10 nomi già mi stava sul cazzo. Perché non c'era la possibilità di mettere Simone Pizzi. Esatto, bravo. No, a me l'editor mi ha fatto schifo di Second Life. Tra l'altro ho detto, e poi comunque se fossi entrato avrei fatto quello che facevo su Home, insomma, mettevo davanti a due che parlavano e facevo su e giù. Io volevo andare a incontrare Peppe Grillo nel suo vulcano su Second Life, ma non ho potuto. No, dicevo, comunque pure anche con Minecraft, appunto, questa esperienza sociale di stare solo assieme all'interno di un mondo con qualcun altro, tanto per esplorarlo, per plasmare oggetti e nient'altro, fondamentalmente. Non hanno uno scopo ben delineato, che dopo che è terminato quello scopo finisce la partita, no? In quello sicuramente, ma è per te invece, Giuseppe, un esempio di multiplayer sbagliato, proprio l'abbiamo messo perché ci hanno detto di metterlo, perché tira, perché ma purtroppo così. Per me, cioè, io sono un po' più esigente, per me il multiplayer è già di per sé, tra virgolette, sbagliato quando non ha un contesto diciamo narrativo o comunque legato all'ambientazione. Cioè che magari, ecco, paradossalmente non è sempre per citare quel gioco là, ma Mass Effect 3 comunque una giustificazione l'aveva. Ciacin! una giustificazione, un suo perché l'aveva, perché appunto nel 3 c'è tutta questa guerra contro i razzoli, che quindi tutte queste specie, no? E quindi, insomma, all'interno della missione portata avanti da Shepard c'era appunto questi altri eventi paralleli di tutte queste forze della galassia unite contro un nemico comune, e questo aveva, diciamo, un senso. Ma quando appunto facciamo appunto il multiplayer fine a se stesso solo per spararsi eccetera e non ha, diciamo, senso magari all'infuori dei giochi, diciamo, più diciamo famosi come può essere appunto quel multiplayer di un Call of Duty, è una cosa fine a se stessa, un accessorio in più che hanno voluto mettere tanto per allungare, diciamo, il sugo di gameplay, spesso il poco sugo. Sì, questo, diciamo, secondo me non va, così come infatti a me non piace che sto facendo pure appunto il multiplayer dell'ultimo Tomb Raider, come, diciamo, ho avuto modo di giocare ma mi ha annoiato un po', che so, il multiplayer anche dello stesso God of War, l'ultimo che sta uscendo, Ascension. Cioè che è caruccio, però fondamentalmente non fai che combattere in alcune arene massacrando gli altri giocatori, ma cioè ovviamente in persone un eroe diverso da Kratos, ma di per sé non aggiunge niente, ecco. La domanda è perché? Perché che è la domanda che ci siamo posti in mille altre occasioni. Perché c'è gente di cose fondamentalmente slegate al. Perché? Che senso c'ha? Questo è il. E appunto dico, non ha alcun senso per noi giocatori, almeno per i giocatori, almeno che in qualche maniera si lasciano appunto portare dalla storia e tutto. Ha molto senso invece per gli sviluppatori, soprattutto per i publisher, perché inserire il multiplayer è fondamentalmente un modo per far sì che la persona terminata la campagna in single player continui a giocarci a quel gioco per i prossimi sei mesi, un anno, non lo vada subito a rivendere, anzi loro ci monetizzano pure sopra, perché ormai multiplayer è anche sinonimo di online pass, di nuovi DLC, di nuove mappe, di nuove skin di personaggi che vengono sempre rilasciati, esatto, a cadenze regolari, no? Sì, siamo qua. Esatto. Sì. Stavo finendo di scrivere. È anche un ottimo modo, appunto, per tra virgolette pure combattere appunto l'usato, no? Questa piaga. Quello fondamentalmente. Cioè, e smettiamola con questo usato. No, esatto. Marco Gualdi, Pizzi. Tanto, guarda, io sono molto più o meno giocato le stesse cose. Io sono molto allineato con Saso, perché poi alla fine io quando gioco una storia. Io quando giocavo ai vecchi giochi, che ne so, poteva essere Galaxian, Ball Blazer da Lucasfilm, poteva essere qualsiasi gioco che stiamo parlando degli anni 80, che non aveva una vera e propria magari storia e una vera e propria conclusione, per ovvie ragioni io mi andavo a vedere il libretto delle istruzioni, andavo a vedere gli artefatti e mi costruivo proprio fantasiosamente le mie storie che vivevo dentro quel videogioco. Quindi l'omino di turno andava a fare determinate cose perché erano successe degli avvenimenti che l'avevano portato a compiere quelle azioni, e quindi mi costruivo proprio delle storie io, e quindi mi piace giocare ancora delle storie. Quelle che ci sono adesso ovviamente sono storie vere, compiute, non apriamo parentesi, e quindi mi piace giocarle per quelle che sono. Il multiplayer di gente che si spara tra di loro per far vedere chi è più bravo a ammazzare l'altro, ma sti cazzi, ecco, scusami, cioè io lo posso capire che piace, però a me non me ne frega perché niente. Me lo devi mettere su qualsiasi cosa, cioè fai dei giochi dedicati e via, cioè, ecco, paradossalmente, scusami, hanno un po' più senso alcune, per esempio, cose multiplayer, che so, una modalità multiplayer come quella di che è una delle tante di che hai giocato pure tu, Stefano, Far Cry 3, che c'è tipo la bellissimo, quella multiplayer in cooperativa, dove diciamo tu segui una campagna parallela di altri tizi. Però lì è una storia, c'è anche esatto. Una storia. Oh, perfetto. Lì può aver senso. Oppure anche quella appunto che invece hanno corretto il tiro con Dead Space 3, dove praticamente è la stessa storia in single player, solo che assieme ad Isaac c'è un altro personaggio. E ci sono delle missioni che poi delle aree che puoi esatto. Esplorare solo in coop, tra l'altro. Esatto. Esatto. Per esempio, quello che diceva anche Saso di Mass Effect 3, che è stato fatto questo multiplayer che ha, come dice lui, più senso, perché comunque ci sono dei miglioramenti che puoi ottenere nel gioco in single player, proprio nella... O anche, per esempio, pensiamo pure... Però, scusa, sì, finisco, scusami, però lo trovo sbagliato, perché poi alla fine mi va a pregiudicare qualche cosa nel gioco single player. Se io non voglio andare a giocare il multiplayer perché me ne fotto, comunque ho tra virgolette un danno, quindi mi viene danneggiata la partita in single player. Cioè, se me le mischi, comunque mi crei un danno. Perché io Beh, scusa, se ti è piaciuta la storia, perché non hai mai giocato a World of Warcraft? Che ad esempio, in realtà, nonostante sia multiplayer, tu porti avanti una storia collettiva. Perché è collettiva? Perché è collettiva? Cioè, nel senso, cioè, guarda, io gioco. Tu fai la tua parte all'interno di una storia. Giocando, sì, ma io sto giocando infatti come multiplayer. Sto giocando The Old Republic, perché è molto single quello. Player. Sì, esatto. Praticamente un single player, sì, dove ci sono zone di cooperativa che mi dà pure un po' fastidio fallo, perché devi aspettare la gente che si piega, tra virgolette, si abbassa ad aiutarti. Sembra quasi che ti sta a fare un favore, ma sta lì magari aspetta 10 minuti e dopo un po' ti rompi le palle e non le fai le sessioni in cooperativa. Ok, Giuseppe, perdonami, ti ho interrompo. Un altro esempio di multiplayer interessante, per esempio quest'ultimo, che va ben oltre le modalità classiche, quell'altra campagna parallela che hanno introdotto in Halo 4, come San Luigi, le Spartan Ops, per esempio, che mostrano un'altra storia parallela, che appunto è quella del... Però ci può stare, perché sono storie. Cioè, mi potrebbero, anche se non sono proprio molto diciamo affine con multiplayer, però se ci fosse un multiplayer con una storia parallela, potrei pure... Sì. In Halo 4, a parte le solite, purché non siano delle vaccate assurde, diciamo, di dominio eccetera, c'è pure tutta questa campagna, che la proprio, campagna non esatto. Sia semplicemente una scusa per far spara ammazza no, invece che in quel caso diciamo è proprio fatta per essere diciamo vissuta dagli occhi di altri comprimari, che però sono comunque presenti nel gioco e tu li incontri di fatto anche nella campagna di single player. Quindi perfetto. Simone? No, andate avanti. Io, ragazzi, volevo chiedere una cosa. Siccome devo andare, però mi prenoto se dovessimo fare un'altra puntata più specifica su multiplayer, come ne intendeva Simone, sugli aspetti un po' più sociali o tecnici, se vogliamo. Però mi spiace, ma devo proprio scappare. Ma sì, in realtà ci sono tardi un po' per tutti, comunque. Sì, si è fatta una certa per tutti. Magari finiamo di discutere, che ne so, di alcuni temi, li suddividiamo magari in un'altra puntata, Marco, che dici? Sì, perché sembrava una sembrava una stronzata, invece alla fine stava parlando da 4 ore e mezza. Esatto. Ma dai, Luigi, se aspetti 5-10 minuti ce la fai, o sei proprio di frettissima. Devo proprio andare, sì. Però vi volevo augurare comunque un buon proseguimento, un buon lavoro. Grazie. Ciao Luigi. Grazie a voi. Bene, vabbè, salutato. Allora, salutato Luigi, io direi che in effetti abbiamo alcuni punti in scaletta, che però, riflettendo anche con Saso e con Stefano, chiaramente anche con Simone e Marco, ma loro insomma non c'hanno sti cazzi, insomma. no, ci stiamo. No, è la stanchezza. No, insomma, volevo dire qualcosa, ma non so neanche quello che volevo dire. In realtà abbiamo pensato che questi punti in scaletta possono essere tranquillamente trattati addirittura in una puntata specifica. Anche se no, non sappiamo più che cazzo dire. Esatto, quindi potremmo farci proprio delle Quindi io direi specifiche. Che questa puntata, spero, insomma, che lunghissima, spero sì. Che abbia puntata trattato. Fiume. Secondo me ha sfiorato alcuni punti interessanti. Non li ha potuti approfondire. Però, secondo me, apre una collana di discussioni. Insomma, che con Giuseppe, con Luigi, con Simone, Marco. Stefano e anche con gli altri amici di etnologia videoludica, insomma, prima o poi apriremo. Anzi, è l'ospite che verrà. È l'ospite che verrà, che stasera avrebbe dovuto venire. Ma per fortuna a sto punto, perché sì, se no finiamo più, veramente. Sì. Quindi ce lo teniamo caldo per un attimo. Anzi, infatti, sì, a questo punto. Anzi, io ho pensato anche a alcune trasformazioni per dietrologia videoludica. Poi ne parlo con Stefano, multiplayer, che è il nostro socio. No, vabbè. Comunque, vai, Stefano, fai fare i saluti, poi diamo i riferimenti. E poi ce ne andiamo a dormire, che insomma domani si lavora. Ma i saluti, aspetta, in che senso? Chi vogliamo salutare? Non so, c'è qualcuno che ci ha scritto. Fai fare a rotazione i saluti, fai l'ospite. Ah, c'è qualcuno che ci ha scritto qualcosa, qualche insulto? Non so, non l'abbiamo controllato, quindi non ci interessa. Vabbè, è parecchio che non commentano sul sito. Che ricordiamo, l'abbiamo rinnovato graficamente, ancora un po' da rifinire, però. Insomma, veniteci a trovare e leggete i nostri articoli. C'è un buon traffico nel sito, devo dire, però nell'ultimo periodo è un po' calato, forse perché non stiamo pubblicando tanto. Comunque, www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito, dietrologia videoludica la pagina su Facebook, dietrologiavideoludica@gmail.com è ovviamente la nostra posta elettronica, dietrologia vide è il nostro Twitter, che... no, videoludo. Credo, sì. No, non lo so, Videoludo è il nome, Dietrologia Vide è l'account. È l'account, ok, allora ho sbagliato. Dietrologia Videoludo, che è il nostro, ovviamente, il nostro Twitter, che insomma è pubblica in automatico, in realtà non lo stiamo, cioè non lo utilizziamo per conversare con la gente, insomma. Detto questo, io a rotazione farei fare insomma un saluto finale, quindi partiamo da Simone. Ciao a tutti, buonasera. Belli e brutti, se posso dare un paio di contatti dove, sì, vai, vai, dove vai, entro, vai. Devo spammare un po' su Free Playing martedì sera, dove appena riusciamo a riprendere le redini faremo anche nuove ospitate, sì, più sì, ufficiali. Sì, sì, sì. Che? Sì. Ah, ma sì, ma sì. Su dietrologiavideoludica.it anche in forma scrittoria scrittibile. E basta, che se no ve le trattate male, quindi buonanotte. Ma ci mancherebbe altro. Colui che ci ha ospitato, Giuseppe Sato, il padrone di casa proprio. Allora, i miei contatti sono abbastanza semplici, ovviamente scrivo io abito a via scrivo anch'io su dietrologia videoludica, quindi mi trovate là, e poi mi trovate il sul mio blog personale tutti i riferimenti alle mie produzioni in rete, che sarebbe qui quello di Tumblr, quindi vitaingioco.tumblr.com, che è questo aggregatore fantastico. Ti volevo dire questa cosa, appena attacchiamo ti chiederò questa cosa, e però la volevo mettere anche in registrazione, così tanto per. Vabbè, ha voluto dire Marco. Io invece saluto tutti quanti, i miei contatti sono il mio nome su Google Plus, ci sono io. Se lo cercate su Facebook, lui è Chindog Rome. Ma anche il distruggitore. Cioè, anche il distruggitore. Comunque salto fuori in qualche modo. Tanto se mi insultate io cancello tutto. E su GPU invece sono, usando un nickname molto, molto caro, cioè una modalità di nickname molto caro a Simone Pizzi, mi chiamo Marco Gualdi. Sì, esatto. E soprattutto andatevi a guardare tutti i suoi post di Kotor, delle immagini di Kotor. Certo, che è ancora in fase è prolifico, vero? Sì. Voglia. Che è l'unico che usa GPU, cioè lui è ovviamente William Shatner che motherfucker. Motherfucker, okay. Ogni tanto ci chiede chi cazzo siamo, che lo seguiamo senza motivo. Perché tu mi segui, brutto stronzo? E comunque multiplayer merda, ma non il sito, proprio. No, in generale, ok. Vediamoci, che sono nostri amici. Stefano. Che sono amici, sì. Io saluto tutti, ringrazio per chi ci ha seguito, nonostante il fatto che ci siamo noi a condurre e a partecipare perché a questo podcast. Se ci fossero tutti noi sarebbe una trasmissione migliore. Sarebbe stupendo, sì. Cioè, sarebbero due ore di silenzio e sarebbe migliore. Comunque, e niente, vi saluto tutti. Potete appunto leggermi quando riesco a pubblicare su Dietrologia Videoludica o su retrocast.it, sito rinnovato, per il resto è tutto uguale, la solita merda, non preoccupatevi. Quindi, e niente, e qui anche su Dietrologia Videoludica, molto volentieri, certo, eccetera, più ospitate varie ed eventuali. Ricordiamo che Stefano è quello che scrive l'articolo un pezzo a settimana. Sì, magari, più o meno, a me piace. No, un pezzo a settimana, nel senso che scrivo un pezzo, un articolo. Lui scrive una riga ogni tanto quando mi capita. Sì, quando non ci sono insulti è cosa vario, ovviamente. Tanto apre gli articoli, fa le bozze, poi dopo li finisce nel giro di 2-3 mesi. Io vorrei fare una volta uno speciale in making of Simone B. Sì, Stefano Biggio. Stefano Biggio, perché e raccontare come lui scrive gli articoli, perché lui prima getta giù uno scheletro, è fantastico, perché è molto professionale sta cosa poi, sì, sì. Fa lo fanno in tanti sta cosa. Lui si fa tutto tipo cosa qui, che lui non qui fa dico qualche cazzata, qui dico tu strozzate e qui vaffanculo. Sì, no, e beh, qui improvviso. No, qui cioè tipo io metto le basi e poi non è che la casa la costruisci dal tetto, prima fai le basi e poi ci fai tutte le cose intorno. La differenza è che in realtà io copio articoli, che è la stessa cosa che fa Simone Cognome, che è quello che fa Simone, copio articoli, esatto, miei scritti. Basta, ve l'ho scritto pure originale. Ma perché? Vabbè, ascolta, guarda che se io adesso consegnassi un articolo alla settimana loro continuerebbero a dire che scrivo lentamente, quindi tu puoi anche farli tuoi, noi continueremo a dire che tu li copi da altri. A questo punto li copio, ma faccino, io mi sforzo. Ricordati Simone che quello che fai la prima volta rimane per sempre. Sì. Ma pure come con scuola, le donne vale. Come a scuola, se va vale bene. Pure con le donne è finita. Signore e signori, no, peggio. Grazie dell'ascolto e come al solito ci ascoltiamo la prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. And now, an ad from Dad. All right, save money on car insurance when you bundle home and auto with Progressive. Can I take these off? All right. What is this? This looks good. Wow. That's well made. Where did you get this? I'm talking to you with the hair. Yeah, where did you get this? It's good stuff. That's solid. That's not veneer. That's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations. Aloha and welcome aboard Hawaiian Airlines. Hawaii flies with us. Now, for a limited time, new Hawaiian Airlines World Elite MasterCard card members can earn 60,000 bonus Hawaiian miles after qualifying purchases. That's 60,000 bonus miles closer to the warmth and traditions of Hawaii. Apply today at hawaiianairlines.com. Offer subject to credit approval. See application terms and conditions for complete details. Credit cards issued by Barclays Bank Delaware.